La zanzara con Alessio Maurizi. Numero verde 800-24-00-24 per intervenire in diretta anche questa sera. Cari ascoltatori, potete scriverci anche al 349-238-6666 oppure alla zanzara@radio24.it. Siamo anche su Facebook La Zanzara. Siamo qui anche la sera di Ferragosto insieme a me, Alessio Maurizi, insieme a Laura Marchesi, Marco Lombardo in redazione, Pietro Lacorte in regia. Cominciamo subito Sky TG24. Manovra Maroni vuole azzerare i tagli ai comuni, il decreto non toccherà la sicurezza. Il Casini chiede di eliminare il contributo di solidarietà, così com'è voteremo contro, spiega. La BCE rivela di aver comprato BTP per 22 miliardi, domani vertice Sarkozy-Merkel. Rapito un operatore di emergency in Sudan per Gino Strada, un fatto del tutto inatteso. Una serie di attentati insanguinati all'Iraq, almeno 66 morti in diverse città del paese. Lite mortale a Bagheria, fermati anche il padre e un fratello dell'aggressore. Fabregas firma e torna a Barcellona e Eto'o lascia l'Inter senza salutare i tifosi. Ferragosto in zona di guerra, Sky TG24, il racconto dei nostri soldati in Afghanistan. Il nostro cuore gronda sangue quando pensiamo che uno dei vanti di questo governo era quello di non avere mai messo le mani nelle tasche degli italiani, mi cito tra virgolette, ma la situazione mondiale è cambiata, ci troviamo di fronte alla più grande sfida planetaria. Il mio cuore gronda sangue, ha detto Berlusconi, e ognuno sta in questi giorni guardando sui giornali, ascoltando i telegiornali per vedere quale goccia di sangue ricadrà addosso, quale provvedimento ci coinvolgerà direttamente o indirettamente. C'è l'imbarazzo della scelta, ma il tema, la notizia è proprio quella che Berlusconi, nonostante ci abbia messo la faccia, come è stato giustamente detto in molti commenti sui giornali all'indomani della presentazione di questa manovra lacrime e sangue, ha giocato un po' due parti in commedia, cioè ha fatto il Presidente del Consiglio, ma ha fatto anche il rappresentante dell'opposizione, perché ha detto a me questa tassa, questo contributo di solidarietà, questo fatto di avere messo le mani nelle tasche degli italiani, io che avevo detto che non l'avrei mai fatto, questa cosa non mi va giù. E c'è una fronda di parlamentari del PDL che stanno già lavorando per modificare la manovra, eliminare questo e forse anche altri provvedimenti. Del resto i distinguo non mancano, c'è a chi non piace il taglio dei comuni, l'ha detto oggi Maroni per esempio, il ministro dell'interno, preoccupato forse anche per le questioni della sicurezza. C'è chi non apprezza il taglio ai trasferimenti locali, per esempio tutti i governatori delle regioni. Sentiamo allora tra i vari distinguo Formigoni, che avanza una delle ipotesi alternative che sta prendendo campo e piace anche a Berlusconi, l'aumento dell'IVA. Quando si parlasse di una patrimoniale per i ricchi, è chiaro che a chi ha di più è giusto chiedere di più. Poi devo dire anche che ho apprezzato la proposta della Marcegaglia, la presidente di Confindustria, che parla di un aumento dell'IVA. L'aumento di un punto percentuale dell'IVA non ha fatto male in Germania, non ha affatto mandato indietro i consumi. Innamorata. E sappiamo che Berlusconi avrebbe voluto, almeno così dicono in retroscena che leggiamo sui giornali, avrebbe voluto questo aumento dell'IVA, Tremonti invece no. Cosa sentiamo? Sentiamo Maroni, che sempre nell'elenco dei distinguo oggi si dice preoccupato, anche se non moltissimo, tutto sommato, dal taglio dei comuni più piccoli, dall'accorpamento dei comuni più piccoli, una misura dalla quale ci si aspettano risparmi. Non è molto chiaro, a dire la verità. Qualcuno scrive quasi 8 miliardi di euro, altri dicono sarebbe molto meno. Anche perché i gettoni di presenza dei consiglieri comunali dei comuni così piccoli sono bassissimi, come scrive oggi per esempio anche Gianni Trovati sul Sole 24 Ore poche decine di euro. Ma sentiamo Maroni. Il mondo delle autonomie, in particolare i comuni, hanno sofferto in questi anni di riduzioni notevoli e io penso che, come ha detto il Presidente del Consiglio, poiché la manovra non è blindata, non verrà posta la fiducia, il Parlamento possa, anzi debba fare uno sforzo per garantire al mondo delle autonomie, in particolare ai comuni, un taglio dei tagli che sono stati fatti, se mi consentite, fatti salvi i saldi complessivi, certo, cosa che ha detto il Presidente del Consiglio. E se l'accorpamento dei piccoli comuni è, diciamo, un problema risolvibile secondo Maroni, lo è anche il fatto che con l'abolizione di una trentina circa di province, sempre che il provvedimento vada in porto, perché i distinguo naturalmente, anzi i se sono d'obbligo, dice Maroni, garantiremo la presenza della polizia, che normalmente sta nelle questure e nelle prefetture, in altri modi. È chiaro che il venir meno di una provincia determina il venir meno della prefettura. Questo è matematico. Non ci sarà una diminuzione della presenza delle forze dell'ordine, perché se anche non c'è la questura, ci può essere una struttura, il commissariato per esempio, che garantisce la stessa presenza di forze dell'ordine che è attualmente prevista. E c'è una proposta dell'opposizione, che viene dall'opposizione, dal Partito Democratico, credo, direttamente, che è quella di tassare i capitali che sono stati scudati. Cioè Tremonti ha un elenco dei capitali che sono entrati tramite lo scudo fiscale pagando una percentuale piuttosto bassa di tasse. Adesso il PD dice, dato che Tremonti ha questi riferimenti, si potrebbero tassare al 20%. Una percentuale che sta nei paraggi, una proposta che piace per esempio a Lupi del PDL e che fa breccia anche nella Lega. Sentiamo lo stesso Maroni. 1.600.000.000 circa di taglio ai comuni, che può essere forse azzerato attraverso altre misure. Leggo sui giornali proposte di vario tipo, dall'aumento dell'IVA alla ulteriore tassazione dei capitali cosiddetti scudati, lotta all'evasione, tante misure che io valuto con interesse e credo che il Parlamento, il Senato in primo luogo, valuterà con interesse, venute anche dall'opposizione. Dunque, il cuore di Berlusconi gronda sangue, ma non è l'unico, perché sono in molti in questi giorni a sperticarsi in critiche a questa tassa di solidarietà, a questo contributo di solidarietà. Io devo dire che francamente non capisco bene perché, dal momento nel quale questo contributo riguarda circa 400-500 mila nostri concittadini e porterà un contributo di 1-2 miliardi di euro su una manovra di 50 miliardi di euro. Cioè è una percentuale piuttosto bassa, quindi non mi sembra questo il quantomeno in termini quantitativi l'obiettivo, cioè diciamo il grosso di questa manovra. Pensate che solo dai ticket per i ricoveri sanitari o anche semplicemente per le visite mediche si raccoglieranno quasi 8 miliardi di euro, ma questa tassa di solidarietà non va giù per esempio neanche a Casini. Sentiamo. Un paese che tartassa, colpisce, uno Stato che fa il sanguisuga verso le poche persone che non evadono nemmeno una lira di tasse, beh, questo è intollerabile, e colpisce quel ceto medio che è l'ossatura del paese. Mio cuore. Sarà che forse, come ha detto oggi Romano Prodi in una intervista a Mattino 24, a Radio 24, noi quando eravamo in ballo con Ciampi, Napolitano, Andreatta, pensavamo moltissimo prima di fare un intervento, di mettere le mani nelle tasche degli italiani. Oggi, dice Prodi, non lo dice ma si capisce, un po' di improvvisazione. Mi ricordo benissimo le lunghissime discussioni fatte con Ciampi, Napolitano, sì, Andreatta, cioè c'era una squadra che pensava, uno può anche sbagliare dopo aver pensato tanto, ma noi facevamo tante ore e ore di discussioni con i funzionari, facendo tutte le simulazioni, e qui invece qui ognuno ha la sua tesi e ognuno ha la sua opinione. Sto vivendo con te. ognuno ha la sua opinione e in effetti, come dicevamo, di opinioni ce ne sono tante. C'è la fronda dei parlamentari del PDL che non vogliono il contributo di solidarietà, c'è la Lega che non vuole forse abolire i piccoli comuni, o c'è chi vuole l'aumento dell'IVA. Insomma, l'abbiamo detto, si è riaperto subito dopo che è stata presentata questa manovra la discussione. Adesso ognuno, maggioranza e opposizione, dice la sua. Ancora Prodi, che ha le idee chiare su come per esempio intervenire nella lotta all'evasione fiscale, che in effetti, questo si vede d'accordo un po' tutti, sembra la grande assente da questa manovra, la lotta all'evasione fiscale, dalla quale si dovrebbe prendere 1 miliardo di euro su 50, è pochino. Prodi: noi non possiamo andare avanti in questo modo, il paese andrà alla rovina se non c'è un discorso diverso sul problema dell'evasione fiscale. Mettere tutti in elettronico, mettere tutti in rete, obbligare a minimizzare l'uso del contante in un modo feroce è l'unica via per andare avanti. La democrazia si difende con le ricevute, sia chiaro. Le ricevute moderne sono un sistema elettronico che controlla quanto si spende, quanto si ricava e che lascia la tracciabilità. Se noi non abbiamo il coraggio di far questo, il paese sarà sempre un paese disastrato. La democrazia si difende con le ricevute, una versione chiarissima di quello che altri, i suoi oppositori, hanno definito il governo delle tasse, ma insomma di questo si parla in queste ore. Buonasera Guido Crosetto, sottosegretario alla difesa, onorevole del PDL. Buonasera. Buonasera. Allora Crosetto, lei in queste ore di immediata, diciamo, post presentazione, approvazione di questa manovra, lei è tra quelli dentro il PDL che ha espresso delle perplessità. Sì, ho sentito prima una sua semplificazione che non mi è piaciuta per nulla. Quelli del PDL che sono contro la tassa di solidarietà. O quelli che si sono svegliati all'ultima ora. Premesso che sono 2 mesi che io dico che non mi piace molto la politica che sta facendo Tremonti, quindi almeno di quello mi dia atto. Secondo, non ho contestato quello, ho contestato proprio la filosofia che c'è in questa manovra. Non mi riferivo tanto e solo a lei, quanto anche ad altre posizioni che abbiamo intervistato, anche il suo collega Stracquadagno settimana scorsa. Avete avuto la cortesia di chiamarmi, l'ho preciso, magari così è più chiaro. Cioè, io continuo a dire che fin quando noi aumentiamo le tasse per pagare il deficit e debito, cosa che non possiamo non fare adesso, premesso che sono scemo, non lo so. Noi non risolviamo il problema, cioè fin quando noi non andiamo a eliminare le cose che creano una spesa pubblica che non possiamo più permetterci, quindi a cercare di ridurre o rendere più efficiente lo Stato, qualunque manovra non serve. Il prossimo anno ci sarà un altro contributo di solidarietà, ci sarà un'altra cassa da aggiungere, ci sarà magari il prodotto interno lordo che cresce, perché questa decresce, questa è una manovra depressiva, quindi mancheranno di nuovo dei soldi, è un gatto che si morde la coda senza fine. Allora abbiamo chiesto che ci fosse invece in questa manovra il coraggio di iniziare a cambiare uno Stato che costa troppo, iniziando anche a differenziare, perché prima lei parlava di spesa sanitaria, vede, non ha senso tagliare o aumentare la spesa sanitaria senza andare a vedere che c'è un'ASL che costa 10 volte un'altra, dove magari chi va in ospedale muore e nell'altra invece viene salvato o riceve cure ottime. Cioè, in questo paese non ha senso dire punisco i dipendenti pubblici quando ce ne sono moltissimi che lavorano e meritano rispetto e ce ne sono altri che raggiungono il 50-60% di assenza e non possono licenziarli. Ma questa cosa, per esempio, dei costi differenziati della sanità non dovrebbe essere contenuta nel attesissimo benedetto federalismo di cui si è parlato 1000 volte, Crosetto? Questo, se non ricordo male, entra nel discorso del federalismo fiscale. Ci serve, non serve soltanto il controllo, serve dare qualche lezione. Cioè, quando un'ASL viene gestita bene, ci sarà qualcuno che ha dei meriti, lo ha premiato. Quando un'ASL viene gestita spendendo 5 volte l'altra, c'è qualcuno che va cacciato. Fin quando nello Stato non inserisco questa logica che dal più piccolo artigiano al commerciante all'industriale vale, io non risolvo i problemi. Fin quando non punisco quelli che vanno puniti e non premio quelli che vanno premiati, e nello Stato chi lavora diventa uno stupido, perché quello di fianco prende lo stesso stipendio e magari non fa nulla. Sì. Prendono, cioè, fin quando un assessore alla sanità può fare il più grande buco d'Italia e all'elezione successiva prendere 10 volte i voti di un suo concorrente. Però mi scusi, ma sì, sì, ma diciamo la perplessità è questa, cioè lei sembra che parla quasi come, io ho detto, Berlusconi ha fatto due parti in commedia, era una battuta, ma quando dice il mio cuore gronda sangue, ci sono dei provvedimenti che non avrei voluto, è evidente che esprime una critica, ma è quasi come se si mettesse all'opposizione, e mi sembra che anche lei faccia un po' la stessa cosa. Però voi siete al governo in questo momento, sembra che la manovra l'abbia fatta il solo Tremonti, non so se è proprio così. Evidentemente, se avessi potuto dire la mia sulla manovra non l'avrei detta dopo, primo, come lei sa. Secondo, io sono tornato 2 giorni fa dall'Afghanistan, mi occupo di difesa, sono un foglio che ho passato la mia vita a occuparmi di bilanci dello Stato e spesa, e quando vedo delle cose che non mi convincono pur facendo parte di un governo, penso che il nostro compito sia dire quello che pensiamo, sì, se sì, riteniamo che la strada sia sbagliata. No, tra l'altro, in un paese sì, in cui si pensa che tutti, uno debba ragionare per tutti e tutti gli altri zitti. Siccome vivo del mio, anche se non faccio politica, e devo difendere innanzitutto la mia faccia di fronte alle persone che mi hanno sì, mandato lì. No, no, no, ma lei ha ragione. Anzi, le rifaccio la domanda, allora forse mi viene meglio. Credo che su quelle cose che lei ha detto, il dimagrimento dello Stato, insomma, tagliare una serie di spese che tutti sanno, tutti, proprio dal primo all'ultimo dei cittadini italiani, sanno che sono inutili, è una cosa su cui siamo tutti d'accordo. Il punto è, come mai non si riesce a farlo, visto che siete in molti a dirlo, siete in questo momento in maggioranza al governo, e però non so, per esempio il Brunetta della lotta ai fannulloni, lei parla di uno Stato più efficiente, non è stato fatto abbastanza allora? Bene, fin quando io non ho il coraggio di avere anche uno scontro con i sindacati, dicendo che fare il sindacato non significa difendere tutti i lavoratori, ma quelli che lavorano veramente. Cioè, fin quando non ho il coraggio di sconfiggere alcuni tabù in questo paese, no, in cui i sindacati non si trovano a difendere quello che è il dipendente pubblico o quello dell'azienda privata che lavora, ma magari il fannullone, solo perché è iscritto a una tessera. Fin quando inizio a dire cose che fanno del male o che fanno sanguinare qualcosa e non tolgo qualche tabù, beh, noi non usciremo dalla crisi in cui siamo. Fincantieri è in crisi, lei sa qual è l'assenteismo medio di Fincantieri? No, il 16%. In un cantiere cui non faccio nome raggiunge il 25%. Secondo lei Fincantieri esce dalla crisi competendo con i coreani che lavorano, guadagnano molto di più dei nostri, i coreani, ma lavorano il doppio di ore all'anno? Però la soluzione qual è? Perché Fincantieri è un'azienda pubblica e quindi controllata dal governo, cioè da voi. In teoria è privata. In teoria è privata, anche se sì, è pubblica, nel senso che è un SPA. Ma io intanto le aziende pubbliche, penso che lo Stato non sia un buon gestore di aziende. E penso che quindi dovrebbe vendere anche in questo caso, così come in altri. Lo Stato deve vendere il patrimonio mobiliare e immobiliare, così togliamo anche tutti i problemi di nomine, di ingerenze della politica in cose che non la riguardano. Chi fa politica si dedica a controllare lo Stato e non le società partecipate dallo Stato. Il capitolo liberalizzazioni nella manovra secondo lei è debole? Per adesso c'è la liberalizzazione a livello locale, non vedo perché non spingere di più anche su quella a livello nazionale, no? Cioè, io penso che le liberalizzazioni vadano fatte, dalle liberalizzazioni sia mobiliari che immobiliari si possono prendere centinaia di miliardi, quelli vanno ad abbattere il debito. Senta, un'altra cosa, sempre dai retroscena che si leggono, si intuisce che il Presidente del Consiglio Berlusconi avrebbe preferito un aumento dell'IVA piuttosto che il contributo di solidarietà sopra i 90.000 euro, ed è una ipotesi che sembra potrebbe tornare in pista, alcuni esponenti della maggioranza si sono schierati apertamente su questo. Lei e forse anche diciamo, i parlamentari che hanno firmato, non so esattamente un documento, adesso ci spiegherà, che esprime il vostro dissenso su questo, sareste d'accordo? Ma io penso da sempre che sia il contributo, sia un aumento dell'IVA di un punto, sia l'aumento dell'età pensionabile sia superiore e meno e genera meno negatività rispetto a una tassazione, non parlo di qualunque tipo di tassazione. Cioè, ecco, ma perché questo, Crosetto? Perché una tassazione indiretta o un risparmio indiretto con quello che avrebbe sulle pensioni è meno deprimente. Perché? È molto semplice, anche se è difficile da spiegare, magari non è così popolare. No, perché io mi preoccupo per esempio del pensionato che ha la minima di 500 euro, l'aumento dell'IVA la paga direttamente, il contributo di solidarietà non lo toccherebbe. Ma guardi, allora, questo ha totalmente ragione, difatti io sono convinto che l'alzamento senza scalini, scaloni, anche elevato delle pensioni, debba essere coniugato con un intervento sulle pensioni minime e sulle pensioni massime. Perché come ho detto in questi giorni ci deve essere anche un limite a pensioni che sono eccessive e non sopportabili dallo Stato, che sono più facili da contenere rispetto ad altre, anche se che colpiscono poca gente. L'intervento sui redditi di cui parlavamo adesso, che può essere giusto in un momento se è straordinario, in questo momento di depressione dell'economia rischia di generare nella parte d'Italia, che è quella che ha più propensione all'investimento, un blocco degli investimenti. Quindi il prossimo anno magari ci troviamo con un'economia che scende del 4-5% e annulliamo lo sforzo della manovra. Cioè, la manovra non si fa solo ragionando politicamente, si fa anche ragionando con i requisiti basi dell'economia, no? Per far sì che sì, di non salvare il malato mettendolo in coma. Cioè, Quanti siete parlamentari, diciamo, su questa linea, Crosetto? Quale potrebbe essere il vostro peso al momento del voto? Il peso non si deve misurare il numero dei voti. Noi le nostre proposte le faremo al nostro partito, ne discuteremo. Cioè, però insomma, diciamo che se fosse una posizione isolata potrebbe contare di meno. Non invece vogliamo imporre proposta con la forza dei numeri. Vogliamo imporre in un regime democratico una discussione per vedere di sbagliare meno possibile. Perché qua non si tratta se imporre o meno sacrifici, si tratta di decidere purtroppo quale imporre. Nessuna delle due scelte sarà non dolorosa. Scegliamo quella meno dolorosa e che in qualche modo crei meno problemi al futuro del Paese. Ha sentito Maroni che dice che l'accorpamento dei piccoli comuni, secondo lui, è una cosa che andrebbe tolta dalla manovra? Lei che dice che bisogna tagliare di più, che dice? Ma anche sui comuni vale lo stesso discorso che facciamo prima delle ASL. Perché non iniziamo un po' di discernimento anche lì? Cioè, perché non andiamo a vedere che ci sono comuni che hanno 3.000 abitanti che hanno 5 dipendenti, comuni che hanno 3.000 abitanti che ne hanno 50? Cioè, anche lì parlare di comuni non è una categoria assoluta in cui è tutto uguale, no? Anche dovremmo iniziare a penalizzare i comuni indipendentemente dal numero, che sono gestiti male rispetto a quelli che sono gestiti bene. Cioè, bisogna andare al dettaglio. Un'altra cosa, non so se ha sentito, se era già in linea, un passaggio dell'intervista di Romano Prodi qua a Radio 24, lui insisteva sul tema della tracciabilità, che andrebbe la soglia andrebbe abbassata a 500 euro perché solo così si evita, dice lui, che il paese vada in rovina e si fa la vera lotta all'evasione fiscale. C'è la teoria e la pratica. In teoria, se seguissimo quello che dice Prodi, perché dal punto di vista teorico è inattaccabile, cioè facciamo tutto elettronico, anche le spese di un euro, sì, così passa tutto. Poi però io, come lei, so che vivo in Italia e non vivo in Germania. Cioè? So che ci sono, che probabilmente se noi facessimo una cosa simile rischieremmo di avere immediatamente durissima, rischieremmo anche lì di avere un effetto depressivo. La lotta all'evasione in questo paese è uno dei drammi di questo paese. Cioè, lei dice che se si facesse la vera lotta all'evasione si pagherebbero troppe tasse e ci sarebbe un effetto depressivo. Però così un effetto depressivo, nel senso che sparirebbero tutti, no? Cioè, io non ho capito come funziona una parte di questo paese. Ma in che senso sparirebbero? Cioè, dice che gli italiani si trasferirebbero tutti in Svizzera pur di non pagare le tasse? No, assolutamente no, nel senso che molti di quei consumi sparirebbero completamente, cioè andrebbero all'estero. Cioè, quello è un problema enorme. Lei ha visto le stime di evasione secondo il Ministero? E allora però come si fa se lei le ha viste? No, di cosa? 90 secondo il MEF, sì? Calabria va del 90%. Secondo chi, scusi? Il Ministero dell'Economia. Ah, okay. Il Ministero dell'Economia raffronti tra l'IVA sui prodotti e i redditi dichiarati, no? Sì. C'è un'evasione vicino al 90%. E quindi? Quindi il problema è enorme nel nostro paese. Secondo me l'unico modo per affrontarlo, cioè un modo sarebbe stato serio in uno stato ideale, era quello di dare la lotta all'evasione con una parte del ricavato ai comuni, ma negli stessi comuni in cui c'è questa evasione, penso alla Calabria, magari una parte dei comuni non è neanche libera di agire e agisce qualche altra forza. Per cui il sistema, il combattere l'evasione nel nostro paese è una cosa veramente difficile e che non si può liquidare con una battuta come fa Prodi. Quindi, anche perché fino adesso la lotta all'evasione cosa è stata nel nostro paese? È stata quella di andare persone che hanno una partita IVA, hanno delle aziende, normalmente pagano delle tasse, fare delle verifiche e fare delle multe, cioè colpire quelli che in qualche modo sono già quelli che pagano le tasse. Quelli che invece non esistono neanche, né come partita IVA, né come codice fiscale, e sono concentrati in alcune parti, quelli nessuno li vede mai, perché non hanno neanche nulla al sole per far sì che la finanza entri in un ufficio. Ma quindi fino ad oggi la lotta all'evasione fiscale fatta dal ministro Tremonti è stata inefficace, mi sembra di capire, in questi ultimi, per esempio, 3 anni di governo? No, la lotta fatta all'evasione da parte di tutti i governi di questa Repubblica è stata, rispetto a quello che succede in altri paesi. Sì, no, però io le lo chiedo a lei, che è al governo da 3 anni, degli ultimi 3 anni. Quelli che in qualche modo una parte di tasse la pagavano. Quindi, no, se dessi un giudizio così, darei un giudizio su Tremonti. Cioè, poi, come lei sa, vabbè, possiamo darlo un giudizio. Anzi, aspetti, facciamo così: facciamo una. Crosetto, se può, le chiedo di restare in linea perché abbiamo una pausa doverosa per alcune informazioni sul meteo e poi rientriamo. E appunto, le voglio far commentare la politica, la lotta all'evasione fiscale condotta da Tremonti in questi 3 anni, ma anche la presenza italiana nelle missioni all'estero, visto che lei è sottosegretario alla difesa e qualcuno dice anche di lì si potrebbe risparmiare. 18:35 minuti, cari ascoltatori, 800 24 0024, tra poco in diretta con i vostri interventi, 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS, in diretta con l'onorevole Guido Crosetto, sottosegretario alla difesa e deputato del PDL, che giudica la manovra approvata dal governo con qualche perplessità, un po', sintetizzo, poi mi correggerà se sbaglio, un po' depressiva. Ci sono troppe tasse e pochi tagli, non si va al cuore del taglio di alcune spese improduttive dello Stato e non si snellisce abbastanza tutta la spesa pubblica improduttiva, una cosa che invece secondo lei, secondo voi, si sarebbe potuta fare e forse si potrà fare. Voi presenterete degli emendamenti in Parlamento su questo sicuramente. Però commentavamo la lotta all'evasione fiscale. La manovra, Crosetto, prevede un ricavato di 1 miliardo di euro dalla lotta all'evasione fiscale. Non è moltissimo se si considera che la manovra complessiva vale 50. Lei dice un problema enorme da affrontare. Un modo però ci potrebbe essere, la patrimoniale, cioè invece dei redditi si colpiscono i patrimoni. Può essere un modo, ma io intanto andrei a vedere, farei una cosa anomala, al posto di continuare ad andare a vedere tutte le partite IVA, andrei a vedere tutti quelli che non ce l'hanno, cioè partirei all'inverso, cioè io andrei a vedere quelli che magari non hanno partita IVA, in teoria non hanno mai avuto che però per esempio magari c'hanno lo yacht, c'hanno la casa, la villa, sì. E poi girano col SUV o esatto. Hanno o fanno vacanze, perché alla fine in quest'anno c'è stata una lotta fortissima con un inasprimento di sanzioni di poteri a Equitalia e all'Agenzia delle Entrate. Ma cosa è successo? Successo che quindi i soliti noti, no, che poi magari qualcuno di quelli evade anche le tasse, ma i soliti noti si sono trovati i controlli in cui alla fine il discorso fra l'Agenzia delle Entrate e Equitalia è o paghi oppure se vai avanti rischi di pagare più, alla fine uno anche se non deve paga. Oppure i poveri che si sono trovati con bollette triplicate, quadruplicate perché un mese non avevano i soldi per pagarle. Ecco, ma lasciamo perdere questi che nessuno... Equitalia in casa che gli ignorava la macchina se non pagavano. Allora io uscirei un attimo da questa platea che è sempre la stessa. Sì. Allora in quell'enorme platea che non esiste a controllare di chi è quella casa, come fai a pagare quella bolletta, come hai fatto a comprarti questa macchina, come fai a tuo figlio, visto che non dichiari nulla da tutta la vita. Ma quindi sulla patrimoniale potrebbe esserci un vostro appoggio, un vostro sì? Beh, sulla patrimoniale, allora, la patrimoniale può essere... Oppure gronderebbe troppo il sangue dal cuore di alcuni di voi? Io sono uno di quelli che dice che nei momenti di difficoltà, se io ho 3 figli e uno e 100 kg l'altro e 15, quello di 100 kg può portare più peso. Ok, quindi diciamo uno sforzo in questo momento credo, potrebbe esserci, sì. No, le dico soltanto, però la patrimoniale fatta senza costruire uno Stato che costi meno non serve a nulla. Questo è chiaro, cioè voi dite no, se sì. Le faccio un esempio di un discorso fatto da un mio amico 2 giorni fa. Ho visto questa tassa nuova che volete mettere, comunque le pago, capisco il momento. devo cambiare macchina, non la cambio. Moltiplichi per 1.000, 2.000, 1.000.000. No? Quando io dico che una cosa può avere un effetto depressivo, però sì. Che... Allora, sì. Quando io mi sono permesso 15 giorni fa di dire, benissimo, facciamo un patto con il patrimonio, la parte più ricca. Preleviamo una parte non come tassa, ma chiediamo di sottoscrivere i titoli del debito. Però non crede che questa volta ci siano dei tagli? Io faccio delle somme un po' così, un po' approssimative forse, però taglia trasferimenti agli enti locali 6,5 miliardi, 8 miliardi circa dalla questione dei comuni, non so quanto dalle province. A parte lasciamo perdere le pensioni, io parlo proprio della macchina dello Stato, quasi 20 miliardi, non sono pochi. A fronte di questi forse si può chiedere questo contributo. Le faccio un esempio che ho fatto nei mesi scorsi. Lei ha un'organizzazione, qualunque essa sia, da una fabbrica all'arma dei carabinieri alla polizia, no? E ha metà 100.000 dipendenti, ok? Lei tiene 100.000 dipendenti. Poi gli dice, ti do meno soldi, quindi magari l'anno dopo non puoi mettere la benzina, l'anno dopo non puoi pagare le bollette della luce, arrivo all'ultimo anno in cui tengo chiusi tutti fermi, ho 100.000 dipendenti, non ho più spese, ma 100.000 dipendenti non fanno nulla. Ok? Questa è la politica che stiamo facendo adesso. Se noi invece dicessimo, sì, scusate, io i 100.000 diventano 70.000, e quei 70.000 hanno le risorse che gli servono per funzionare. Intanto le risorse che servono per funzionare. Ma non erano queste le politiche nella scuola del ministro Gelmini o nella pubblica amministrazione del ministro Brunetta? Non è questo che è stato detto che si doveva fare? Quello del ministro Brunetta, intanto, era il tentativo di iniziare a dividere tra chi lavorava e chi non lavorava. Lui aveva chiamato i fannulloni e non fannulloni. Ma se io poi non arrivo alla fine, e dopo che ho individuato i fannulloni, ripeto, parlo di uffici, cioè, mi sembra che però Crosetto è un po' tutta la politica del governo che lei critica, non la Gelmini, Brunetta, tutte. Io leggo sul sito del Tesoro, sì, che ho tassi di assenteismo in certi uffici del 50-60%. Il mio pensiero, non da se fosse segretario politico, ho sempre fatto il faccio l'imprenditore, e nessuno può continuare a lavorare stando a casa al 50-60% dell'anno, quello va lasciato a casa. Ma quindi anche perché Brunetta ha fatto troppo poco? Nel privato o nel pubblico, ha visto, sì, la difficoltà, scusi, di Marchione, però mi risponda a questo, no? Se no parla da solo. Brunetta ha fatto troppo poco allora sin qua, e lo stesso anche la Gelmini, due capitoli di spesa notevoli. Devo dire che Brunetta ha cercato di fare moltissimo e molte cose è stato fermato, ma cioè, non è che si fa da solo. Lei pensa da chi che è stato fermato, scusi? Il paese può cambiare con una persona, che può essere Brunetta o Berlusconi, da solo che cambiano il paese. Perché in questo momento di crisi magari qualcuno ha capito che il paese deve cambiare. E quindi, vabbè, ripeto, il coraggio di scontrarsi in luoghi dove nessuno si scontra mai. Dire al sindacato italiano, ad esempio, il discorso che le dicevo prima. Senta, un'ultima cosa e poi la lasciamo. Sulle missioni all'estero, per esempio Frattini aveva detto in Libia staremo poche settimane, sono passati quasi 4 mesi, sulla presenza in Afghanistan la Lega fa un po' di pressioni. Lei è sottosegretario alla difesa, non è anche questo un capitolo dove si potrebbe risparmiare o no? Il ministro della difesa fa quello che gli dice il governo dice di andare là, il governo dice di non andare e ritorna indietro. Quindi... E quindi cosa dice il governo adesso? Di andare e di restare? Fino alla fine dell'anno noi siamo impegnati in questa missione, sì, perché il finanziamento è di un mese fa. Certo, è stata rifinanziata da poco, sì, sì. Anche in quello, ripeto, se posso dire, le missioni non può considerarle soltanto come spesa, cioè, perché la Francia, la Germania, l'Inghilterra, gli Stati Uniti le fanno? Forse perché non hanno il nostro stesso debito pubblico, ma questa è solo una battuta ovviamente, perché sappiamo... Gli Stati Uniti, riclassifichiamo, come lei sa perfettamente, secondo i nostri parametri ne hanno 3 volte il nostro debito pubblico, quindi se bisogna... Anche ragionare poi sulla politica estera, insomma, se lo affrontiamo in modo troppo da bar diventa difficile, cioè le missioni vanno inquadrate nella politica estera di un paese e nel peso che un paese può avere nel mondo, e vanno anche ragionate con lucido cinismo. Le faccio un esempio banale, che so che non, se lei non avesse partecipato alla Libia, lei pensa che l'ENI, una volta che finisca sarebbe finita la guerra, avrebbe avuto le stesse opportunità che aveva prima? Tra l'altro, come va lì con l'ENI? Lei sa quanto perde l'ENI da quando è iniziata la guerra? 500 milioni di euro, cioè non incassa più 500 milioni di euro al mese. E come finirà lì, Crosetto? Lei sa quello che pensavo all'inizio della guerra in Libia, sono stufo di azzeccarle tutte e di che nessuno mi ascolti, però al di là di quello... Dice, andrà a finire male per noi. No, non finirà male, nel senso che mi auguro che ci sia una via diplomatica e la possibilità di risolvere per via diplomatica, non vedo una soluzione facile per via militare, anzi la vedo molto difficile, ma lo dico da sempre, non sono solo io, lo stesso Berlusconi la pensa così. Bisogna cercare una via diplomatica, bisogna in qualche modo allontanare Gheddafi, fare in modo che il paese riparta. Però rimanendo dentro l'ombrello della NATO, cioè l'Italia non farà dei passi isolati da sola per finire questo intervento? C'è un paese al mondo che può fare passi da soli ragionando. Cioè, c'è una cosa che l'Italia non può fare è staccarsi dalla NATO, staccarsi dall'Europa. Cioè, i grandi paesi del mondo sono legati uno all'altro più che mai in questo momento di difficoltà. Grazie Guido Crosetto, la lasciamo anche perché ci sono in sottofondo dei rumori terribili. Grazie e buona serata, sottosegretario. I nipotini che giocano, cioè, ecco, sono terribili, sono parte della vita. Vabbè, no, però diciamo all'ascolto suonavano come dei rumori sinistri, saranno delle sirene. Sì. Volevo solo rincuorare gli ascoltatori, cioè, niente di terribile. Sono i nipoti del sottosegretario alla difesa, quindi giocheranno con dei mitra o delle cose del genere, sicuramente. No, il sottosegretario alla difesa si occupa di 3 anni di difesa, giocano con rastrelli, palette, secchiere. Siamo al mare. Pisti per le biglie, sì. Va bene, grazie, buona serata, Crosetto. Tra poco i vostri interventi, prima titoli del... studio aperto. Rapito in Darfur un operatore italiano di Emergency, Francesco Azzara, 34 anni, curava i bambini al centro pediatrico di Niala. Il ministro Frattini, un sequestro inatteso, intelligence al lavoro. È un assassino, deve essere arrestato, è lo sfogo della madre dell'unico sopravvissuto alla strage sulla A26 in cui sono morti 4 giovani, l'albanese che guidava ubriaco e contromano è libero. Il governo, mai più, introdurremo il reato di omicidio stradale. Manovra, opposizione e maggioranza discutono su possibili modifiche, il PD presenta le sue controproposte. La Lega non esclude emendamenti, Maroni chiede di ridurre i tagli ai comuni. BCE acquisto record, titoli di Stato italiani e spagnoli per 22 miliardi. Siamo stati lasciati soli, nessuno ci proteggeva, sono lacrime di disperazione quelle della cognata dello stalker ucciso a Roma, perseguitava mia sorella e il mio bambino, racconta, non sopportava di essere stato lasciato, il padre delle due donne si è accusato del delitto. Un teschio trovato quasi un secolo fa in una grotta del Messico, ora la clamorosa rivelazione di un laboratorio genetico, il suo DNA è un ibrido alieno e umano, gli studiosi lo chiamano Star Child, figlio delle stelle. Mega party col panettone in spiaggia, gavettoni e grigliate, cartoline del Ferragosto italiano. Ecco le immagini della festa più calda dell'anno. E allora andiamo con i vostri interventi, cari ascoltatori. Abbiamo Alvaro che ci chiama dalla provincia di Frosinone. Buonasera. Buonasera e buon Ferragosto. Grazie anche a lei e a tutti. Prego. Ecco, io volevo soltanto intervenire sulla proposta fatta dall'onorevole Crosetto sui manager delle ASL più o meno bravi. L'onorevole ha dimenticato che questi manager sono di nomina politica e che le ASL sono, oltre al fatto del clientelismo, un magnifico serbatoio di voto. Io ho cercato di fargli presente che lui è al governo, Crosetto, in questo momento, però... Lo so, appunto, cioè io, diciamo, queste proposte un po' così, tanto belle in linea teorica, ma irrealizzabili all'atto pratico, perché non ho mai visto un politico che a tagliare il serbatoio dei propri voti, quindi tante volte se ci sta ascoltando facesse un esame di coscienza, ma almeno ripensare un po' alla proposta ed eventualmente cercare il modo per renderla quantomeno credibile, perché oramai non ci crediamo più alle balle che raccontano. Cioè, ma secondo lei i manager dell'USL, per esempio, dell'ASL non dovrebbero essere di nomina politica, per esempio? No, assolutamente no. Guardi, io la prima volta che ho avuto... Sì. Ho saputo che erano di nomina politica fu circa 30 anni fa, quando cominciò la professione, seppi che un manager di una ASL di Napoli era nient'altro che un tranviere, senza laurea e senza competenze, cioè aveva la terza media. 30 anni fa, io mi dissi, sicuramente cambieranno le cose, non mi sembra che siano molto cambiate, forse saranno laureati, diplomati, ma le competenze non ce l'hanno. Grazie Alvaro, grazie. Andiamo a, in provincia, in, a Verona, da dove ci chiama Vittorio. Buonasera. Buonasera, buonasera. Prego. Sì, io seguo da qualche anno un po' l'evoluzione della politica italiana e dell'economia italiana, sono straniero. Ma lei di dove è? Tedesco? Io sono svizzero. Svizzero. Sono svizzero e vivo parzialmente a Verona. E ho seguito un po' la politica anche in Svizzera personalmente. Comunque, venendo sul discorso che naturalmente l'Italia è un ammalato, un paziente molto molto grave. Non so se l'Italia ha possibilità di ritorno su questo punto, poiché il debito pubblico di 1900 miliardi è veramente altissimo e si vede poi in tutte le manovre che si fanno, che si adottano, praticamente non si riesce mai ad arrivare a coprire praticamente le spese che poi annualmente si hanno. Penso che anche Berlusconi, e indipendentemente da Berlusconi, penso che sia ancora al governo, perché non abbia ancora toccato nelle tasche naturalmente i politici che partecipano a queste grandi sedute, a queste grandi, diciamo, questi grandi lavori del Senato e della Camera e così via, perché penso se avesse toccato il portamonete di queste persone, penso che il Berlusconi non sarebbe più al governo. Ma come ho detto, anche un altro politico penso avrebbe le stesse difficoltà di Berlusconi nella situazione italiana di oggi. Oggi devo dire personalmente l'unica cosa che è rimasta all'Italia per poter diminuire il debito pubblico potrebbe essere un'idea, sarebbe di vendere i grandi musei e le grandi opere italiane, cercando di portare il debito pubblico a un abbassamento totale del debito pubblico, cercando però naturalmente obbligando che chi acquista queste grandi opere insomma poi debbano rimanere in Italia. Questa è la mia idea, unica idea, perché il debito è troppo alto. Grazie Vittorio. E a proposito di musei, ci segnalano dalla Sicilia, e se ascoltatori ce lo confermate chiamateci, che i musei regionali siciliani sono chiusi, clamorosamente chiusi. Oggi giornata di Ferragosto, giornata nella quale invece per chi non ha fortuna di poter andare in località di villeggiatura, un giro al museo ci sta sempre e si sa che fanno aperture straordinarie, visite e quant'altro. Invece ci arriva questa notizia: i musei siciliani sono tutti chiusi e con insomma questi chiari di luna, quello che si sente dire, gli stipendi dei consiglieri, degli assessori, dei dipendenti, con una quantità di dipendenti regionali forse superiore a quella di, non so, delle tre regioni del nord Italia, ecco, sentire che i musei della Sicilia, dell'isola, sono chiusi fa un po' impressione. Ma confermatecelo, chiamateci 824 0024, cari ascoltatori siciliani. Andiamo a Brescia. Flavia, buonasera. Buongiorno, sì. Flavia? Flavia in linea, in diretta, sì. No, Flavia è presa da altre faccende, forse la recupereremo più avanti. Andiamo a Genova, Silvano. Buonasera. Sì, buonasera. Sì, prego. Sì, buonasera, no, non sono di Genova, ma non è un problema. Così ci hanno scritto, ma evidentemente. Non è un problema, lei? Assolutamente. Sono italiano, diciamo così. Ma da dove ci chiama, così giusto per chiamo dare... Chiamo da Verona. Perfetto, Silvano da Verona. Sì, benissimo, sì. Prego. Allora, guardi, solo un paio di riflessioni, nel senso sì. Che tutte le riflessioni che ha fatto l'onorevole Crosetto sono sicuramente in buona parte condivisibili, però il problema è che rimangono sempre riflessioni molto generali. Bisogna andare assolutamente nel concreto e non si sentono risposte concrete. Sull'evasione, io per esempio le faccio un esempio molto concreto. Io sto cercando di acquistare casa nell'area del Garda e non c'è un'agenzia o un'impresa che mi abbia chiesto meno del 30% di nero. Se io sto cercando una casa, io ho due bambini, moglie, una casa da 240-250 mila euro, questo è quello che mi posso permettere, vuol dire dagli 80 mila euro di nero. In questo quartiere dove io sto cercando di acquistare ci sono 80 appartamenti. Cosa vuol dire 80 mila euro per appartamento? Cioè, e lo fanno tutti in maniera indiscriminata, io ne avrò girato una ventina. Allora cosa ci vuole per fare una verifica reale su quello che è la questione delle agenzie immobiliari, il prezzo di vendita delle case e del mondo dell'edilizia? Cioè, ma nel momento nel quale lei chiede invece di fare la transazione senza nero, cosa le viene detto? Che non si può fare? 20-25% la casa lei non la porta via. Non ho capito. Se lei non dà almeno il 20-25% sì? di nero, la casa non gliela danno. Questa è la realtà di fatto su cui mi sto scontrando io in questo momento. Le porto qualche altro esempio sulla questione invece delle mani nelle tasche degli italiani. Io ho un bimbo di 4 anni, 5, fa l'elementare, un bimbo che va all'elementare, che scusi la materna, un bimbo che va all'elementare. Due anni fa il nostro asilo, gestito da una associazione insieme col comune, ha dovuto tagliare tutta la psicomotricità per i bambini con difficoltà. Allora, quando si taglia la psicomotricità per i bambini con difficoltà, non con i bambini normali, vuol dire creare delle persone che avranno delle difficoltà quando saranno anche più grandi, costi sociali e quant'altro. Quest'anno il comune nostro doveva investire e darci una mano a sostenere il progetto della materna, ci ha detto che mancano 30.000 euro, perché il comune non li ha. Vorrà dire che noi genitori dobbiamo tirare fuori 30.000 euro di tasca nostra. Allora, non si può dire che non si mettono le mani nelle tasche degli italiani quando si incide sulla scuola, si incide sulla scuola materna, si incide sulle elementari, si incide in questo modo. Tra l'altro, la situazione in cui ho anche un fratello con problemi psichiatrici dall'età di circa 25 anni, e lì vedo un altro aspetto del taglio sulla sanità, del taglio sul sociale, dove io sono costretto, con le risorse che ho, e poi arrivo su una partita IVA, a sostenere in gran parte l'assistenza di mio fratello. Allora, chiudo e le dico questo: io quest'anno ho incassato circa 230.000 euro, ne ho 110 circa che mi rimangono di netto dalle spese. Il mio commercialista mi ha detto che ho totalmente un 62% di tasse da pagare, per cui con quello che mi rimane io sono veramente in difficoltà nel continuare ad essere un contribuente corretto. Grazie Silvano, grazie, e devo dire che in effetti quando si usa l'espressione mettere le mani nelle tasche degli italiani si usa un'espressione che direttamente si adatta meglio alla questione del contributo, la tassa sui redditi sopra i 90.000 euro, però indirettamente, ditemi voi se non è la stessa cosa quando si tagliano i trasferimenti agli enti locali o per 6 miliardi di euro, e i comuni e le regioni hanno detto chiaramente che dovranno diminuire una parte almeno dei servizi, perché non tutto è razionalizzazione della spesa improduttiva, oppure quando si diminuiscono le agevolazioni fiscali per le famiglie di 4 miliardi di euro, anche quello e mettere nelle mani nelle tasche degli italiani, oppure no, oppure il fatto che non sia diretto creare una differenza o rendere più sopportabile questa forma di, chiamiamola, di tassazione. Anche l'IVA è un mettere le mani nelle tasche degli italiani, però sembra più digeribile. 800 24 00 24, ancora un ascoltatore prima del giornale radio. Alessandro da Udine, buonasera. Buonasera, mi avete, intanto complimenti per la trasmissione, buon Ferragosto. Mi avete anticipato, perché io volevo parlare di tagli alle enormi spese militari, se ne parla da pochissime parti, e quello che mi meraviglia, non ne parla neanche l'opposizione. Allora io vorrei porre una domanda, no? Siamo forse un paese a sovranità limitata? E dunque siamo obbligati a mantenere contingenti all'estero e acquistare bombardieri, o è possibile prendere in considerazione almeno il risparmiare qualche cosa, non dico tutto, se siamo a sovranità limitata, anche sulle spese militari all'estero, perché le armi costano. Qua si parla di centinaia di bombardieri acquistati di recente o commissionati, insomma, questi sono milioni di euro. Grazie Alessandro, sì, la risposta gliel'ha data il sottosegretario alla difesa Crosetto quando ha detto non siamo del tutto liberi, anzi per niente, di entrare o uscire da una missione come quella della Libia, indipendentemente da quello che fanno gli altri stati. Ci sono degli obblighi di alleanze, e questo può anche essere visto come una forma di sovranità limitata. Numero verde 800 24 0024 per intervenire in diretta anche questa sera. Cari ascoltatori, 349 238 6666, staremo insieme fino alle 20.30, dunque c'è tempo e spazio per tutti. Titoli di Sky TG24. Manovra, attenzione sulle modifiche, Maroni, ridurre i tagli ai comuni. Presto vertice PDL, sia maggioranza che opposizione contro il contributo di solidarietà. Il ministro della giustizia a Palma, non ci saranno tagli all'edilizia carceraria. BCE, acquisto record di titoli di Stato, Germania e Francia dicono no agli eurobond. Borse europee a passo spedito, in rialzo Wall Street, Milano chiusa per festività. Sudan, operatore italiano di emergency, rapito in Darfur, riserbo della Farnesina. Traffica di attentati in Iraq, almeno 66 morti e decine di feriti in diversi attacchi. Maxi operazione di Google acquistata Motorola per 12 miliardi e mezzo di dollari. Ferragosto al mare, in montagna o in città, ma con le preoccupazioni per la manovra. Calciomercato, Eto'o saluta l'Inter e vola in Russia, Fabregas nella sua Barcellona. Avete sentito dai titoli il ministro della giustizia Palma che dice non ci saranno tagli all'edilizia carceraria, quindi a proposito della recente manovra economica, e però sembra che ci voglia dell'altro per mettere mano alla situazione. Ci sono 67.000 credo detenuti a fronte di 45.000 posti, quindi non solo tagliare, ma bisognerebbe fare, come è stato più volte promesso, costruirne delle altre di galere. 349-2386666 per i vostri sms, come detto 800-24-0024. Allora, ancora titoli del TG3. Rapito da uomini armati in Darfur l'italiano Francesco Azzarà, 34 anni, operatore del centro pediatrico di Emergency. Massiccio intervento della Banca Centrale Europea a sostegno dei titoli italiani e spagnoli per 22 miliardi. Manovra si cambia, contributo di solidarietà in bilico. Maroni, ridurre o azzerare i tagli ai comuni. Meno prefetture ma niente risparmi sulla sicurezza. Introdurre il reato di omicidio stradale. Il PD, paghi chi evade o ha grandi patrimoni. Ora serve un governo di emergenza. Casini, via il super prelievo e intervento sulle pensioni. Siamo tornati all'Aquila 2 anni e mezzo dopo il terremoto. Reparti dell'ospedale sono ancora nei container e nel centro storico tutto fermo. Col TG3 a San Basilio, il quartiere di Roma dove si è consumata la mortale vendetta del padre della ragazza perseguitata dallo stalker. E Google, gigante di internet, compra Motorola, colosso dei cellulari. Sarà sfida all'ultimo telefonino con la Apple. È chiaro che il nostro cuore gronda sangue quando pensiamo che uno dei vanti di questo governo era quello di non avere mai messo le mani nelle tasche degli italiani, mi cito tra virgolette, ma la situazione mondiale è cambiata, ci troviamo di fronte alla più grande sfida planetaria. Così Berlusconi 2 giorni fa, il mio cuore gronda sangue, e notizie di queste ore dicono che non gronderà in vano il sangue dal cuore di Berlusconi, perché forse la tassa di solidarietà sopra i 90.000 euro sparirà dalla manovra, e quindi appunto il cuore di Berlusconi smetterà di grondare sangue. C'è un vertice del PDL in queste ore e sembra proprio che questo contributo di solidarietà sia fortemente messo in discussione. Ma lasciamoci alle spalle per un momento i temi della manovra economica e occupiamoci di altro, perché lo ha detto il ministro dell'Interno Maroni, il governo sta pensando di introdurre un nuovo reato, un reato di omicidio stradale. Sentiamo. Introdurre un reato specifico nell'ordinamento penale, cioè il reato di omicidio stradale, al di là di come si definirà. Penso che sia utile distinguere l'omicidio colposo, che può avvenire in tanti modi, rispetto al fatto che uno, mettendosi alla guida di un'auto ubriaco sotto l'effetto di droghe, possa subire la stessa sorte di chi commette un omicidio per colpa ma senza l'intenzione o senza aver determinato lui stesso queste condizioni. L'ultimo caso, l'altro ieri, di questo che ha fatto inversione in autostrada causando la morte di 4 persone e che è stato peraltro immediatamente scarcerato. Il ministro della giustizia Nitto Palma, rientrato, ricorderete, dalle sue vacanze in Polinesia del Sud, aveva detto che le aveva prenotate molto prima di sapere che sarebbe diventato ministro, e quindi inizialmente sembrava che sarebbe andato nonostante il nuovo incarico, poi ci ha ripensato ed è in Italia. Oggi era a Regina Coeli, il passaggio non è male, dalla Polinesia del Sud al carcere romano. Ha tenuto una conferenza stampa sul tema dell'affollamento, sovraffollamento penitenziario. Ha detto pensiamo di ragionare sulla depenalizzazione di alcuni reati, cercheremo di capire quali, il ricorso agli arresti domiciliari per reati meno gravi, però no ad un'amnistia, come invece chiedono i radicali. Sentiamo Emma Bonino. Il filo che noi proponiamo di tirare è quello dell'amnistia, non solo per liberare le carceri, diciamo, diminuirne la pressione abitativa, ma soprattutto per alleggerire i tavoli dei magistrati che sono oberati di 9 milioni di processi pendenti. Marco Perduca, buonasera, senatore dei Radicali. Buonasera a lei. Allora, la situazione che avete trovato, poi magari commentiamo anche le parole del ministro della giustizia, neo ministro Palma, che qualche apertura l'ha fatta su alcune delle, non solo vostre richieste, che situazione avete trovato? 67.000 carcerati a fronte di posti che sono 45.000, non sono cresciuti molto in questi anni i posti, ma i carcerati sono tornati a livelli pre-indulto. Ai noi sì, diciamo che la capienza regolamentare, perché poi col passare degli anni il Ministero della Giustizia ha creato una nuova fattispecie che è quella della capienza tollerabile, sarebbe addirittura più bassa, cioè 42.500 posti. Quindi noi abbiamo un 65% di sovrappopolazione in istituti che molto spesso sono anche vecchi e non possono godere di alcuna opera di manutenzione perché i soldi sono finiti già al terzo mese di quest'anno, con un organico di polizia penitenziaria che è anch'esso sotto la necessaria soglia, alle volte anche del 40% in alcuni istituti che io ho visitato ieri, per esempio in Toscana manca il 44% degli agenti penitenziari, e molto spesso c'è un direttore che deve fare parte del tempo in un istituto, in una città, e parte in un'altra, e quindi si deve dividere in un contesto di mancanza di fondi, sovrappopolazione, mancanza di agenti, e gestire una situazione potenzialmente esplosiva. Senta, tutto questo, sì, prego. No, alla vigilia di una estate che di solito, oltre che essere calda e quindi creare problemi laddove non c'è acqua, ci sono tre persone in una cella dove ce ne dovrebbe stare una, o 12 in una cella da tre, dove spesso aumentano anche gli arresti. Poco fa abbiamo sentito addirittura che dovrebbe essere creata una nuova fattispecie penale, come se le 35.000 che già esistessero oggi non fossero sufficienti, per mettere subito in galera il responsabile di un fatto che ha fatto notizia per l'estate. Ecco, non mi pare che la reazione della politica di queste ore sia all'altezza del problema, che è un problema di rispetto di legalità costituzionale, come dice ormai Pannella dall'inizio dell'anno, quando è iniziato il suo sciopero della fame. Ma che fine hanno fatto le nuove carceri che dovevano essere costruite? Erano state annunciate a destra e a manca, perché ritorniamo appunto all'indulto, si disse una misura d'emergenza, nel frattempo dovremmo depenalizzare, costruire nuove carceri, invece i posti sono sempre gli stessi, o qualche cosa è stato fatto? Perché ci spieghi una cosa, Perduca, perché noi cittadini normali dobbiamo preoccuparci del sovraffollamento carcerario, oltre che per ragioni di solidarietà umana, ammesso che questo avvenga, diciamo, come moto di solidarietà nei confronti dei detenuti, perché però dobbiamo preoccuparci per ragioni di sicurezza? Perché una volta chiuse le porte della galera si dice il problema è finito, invece il problema no, non è finito. Noi dobbiamo preoccuparci del rispetto dei diritti che sono codificati nella nostra Costituzione, di qualsiasi diritto si stia parlando, e in Italia, ahi noi, oggi si configura invece un contesto in cui sono le istituzioni per prime a violare i propri diritti, quindi chiaramente a non tenervi conto delle esigenze e di ciò che gli italiani avrebbero bisogno, se in effetti poi tutti gli altri diritti dovessero essere rispettati. Noi abbiamo anche un'informazione che ingigantisce la criminalità in Italia, cosa che invece non è, leggendo le statistiche con una maggiore attenzione. Per quanto riguarda il mondo carcerario, è la nota pagina, ahi noi, di una pessima amministrazione della giustizia, dichiarata ormai delinquente professionale dalla Corte Europea dei Diritti Umani, che un giorno sì e uno no dice che per i tempi della giustizia stessa e per anche il modo con cui non vengono applicate le leggi che ci sono, e le leggi che potrebbero in qualche modo non aggravare la vita nelle carceri sono quelli degli arresti domiciliari, piuttosto che tutta un'altra serie di pene alternative previste dalla cosiddetta legge Gozzini, e che oggi non vengono applicate. Non vengono applicate anche perché ci sono 150 magistrati di sorveglianza per 70.000 persone, e quindi sono oberati di lavoro e non possono studiare caso per caso situazioni completamente differenti. Se a questo si aggiunge poi che un 35% dei presenti in carcere non è italiano, che un 40% dei presenti in carcere non ha ancora una sentenza definitiva e quindi potrebbe attendere il termine del processo altrove, anche perché un 30% di questo 40%, ecco, è questo che mi sembra, innocente. Sì. Esatto, è questo che mi sembra preoccupante, perché magari chi ascolta queste notizie dice: beh, ma insomma, se uno è in galera, certo ci sarà un motivo, non si sarà comportato benissimo. Quindi tutto sommato ci sarà anche chi si disinteressa delle condizioni di vita. Invece no, bisogna ricordarci che il 40%, ha detto lei, sono persone in attesa di giudizio, quindi quantomeno per queste bisogna preoccuparsi che non entrino in galera uscendo poi da innocenti, uscendo poi criminali, visto le condizioni. Perché sappiamo che il sovraffollamento vuol dire poi meno assistenti sociali, meno, esatto, come diceva lei, tutta una serie di per esempio pene alternative, eccetera eccetera. Però su una cosa, Perduca, a proposito del reato di omicidio stradale, lei commentava, è contrario, perché insomma va bene depenalizzare una serie di reati minori, però questa è una fattispecie, non so, che forse è un po' più grave di altre. Ma noi abbiamo uno dei maggiori castigamati di questi giorni, Beppe Grillo, ha lo stesso tipo di problema, perché anche lui è stato incriminato per omicidio colposo, no? Però allo stesso tempo è riuscito in qualche modo, non andando in galera, a pagare la sua pena in altro modo e eventualmente a divenire quel che è oggi. Il problema non si tratta di non penalizzare alcuni comportamenti che arrecano un danno ad altri o al patrimonio di altri, occorre affrontare una forte e radicale depenalizzazione, e noi abbiamo salutato con soddisfazione le dichiarazioni del nuovo ministro Nitto Palma che in questa direzione vorrebbero andare, per evitare uno di mettere in carcere, come dicevamo prima, chi ancora non ha, sì, una sentenza definitiva, e due, soprattutto tutti i reati che, ecco, non arrecano danno. Elenco. Qualche elenco. Posso dire, sì, se io vengo trovato in tasca con tre spinelli, specie se non sono italiano, finisco subito in carcere, magari finisco in carcere per tre giorni con la speranza che non diventino poi tre mesi o fino a un massimo di 8 anni, però finisco in carcere, ci sto 3 giorni e metto in moto una macchina amministrativa che costa allo Stato e che rischia di rovinarmi la vita, perché molto spesso uno è scioccato dalle droghe. Quindi droghe cosiddette leggere, per esempio. E questo Beh, è un... Io sarei, sì, anche per le altre sostanze tossiche, purché regolamentate in modo tale che produzione, consumo e commercio avvengano alla luce del giorno e quindi in un quadro legale. Ci sono poi tutta un'altra serie di reati che potrebbero avere una sanzione amministrativa piuttosto che una penale, proprio perché molto più spesso con una forte multa si riesce a scongiurare la ripetizione del reato. Ad esempio? Amministrativa, tutto, sì, ciò che ha a che fare con falsi e truffe potrebbe anche essere più efficace sospendere o dai pubblici uffici piuttosto che, come si pensa di fare adesso, le licenze commerciali o comunque una sospensione dalla parte dei diritti sociali e economici per un determinato periodo di tempo, che comunque è gravissima come sanzione, piuttosto che mettere in carcere per 2, 3, 5 anni qualcuno perché ha truffato o frodato, o magari farlo lavorare ai servizi sociali per fargli espiare una pena. Cioè, ci sono alternative, sì, che, sì, potremmo anche importare da altre parti del mondo, che non costano allo Stato e in qualche modo retribuiscono chi ha subito il mal tolto o il torto da parte del criminale. Senta, come le sembra il neo ministro della giustizia Nitto Palma? Noi abbiamo scherzato, è rientrato dalla Polinesia del Sud, poi non so nemmeno se era mai partito. No, io aveva credo annunciato, che non ci sia mai andato. Esatto, questa vacanza, e poi naturalmente è saltata e oggi ha trascorso il Ferragosto a Regina Coeli, quindi non è il massimo sicuramente. Questa apertura sulla depenalizzazione, però dice l'amnistia no. L'amnistia no, è l'indulto, noi vorremmo assieme all'amnistia. Vedremo questo, come riusciremo a conquistarlo giorno per giorno, quando Pannella ha iniziato suo sciopero della fame e della sete chiedendo un'amnistia per la Repubblica, che come dice lui è ormai un regime antidemocratico, cioè che viola i propri diritti. Quindi da allora a oggi molte cose sono successe. La più importante è successa quando al convegno che abbiamo organizzato al Senato, il Presidente della Repubblica in persona ci è venuto a dire che c'è un abisso tra il mondo delle carceri e la legalità costituzionale, e tutto ciò che attiene all'amministrazione della giustizia è una prepotente urgenza civile e politica per l'Italia. Tutto questo, se non ci fosse stata la mobilitazione di Pannella e di tutti quelli che con lui, con noi, si sono uniti prima allo sciopero della fame, fino a ieri allo sciopero totale della fame e della sete per chiedere una convocazione anticipata del Parlamento, questo non ci sarebbe stata, e forse non ci sarebbero state nemmeno le dichiarazioni di Nitto Palma, che sono molto positive. Abbiamo negli anni avuto commissioni dirette o comunque ispirate dal centrodestra e dal centrosinistra che hanno voluto proporre una riforma del codice penale, e tutte queste riforme sono nella direzione della depenalizzazione. Occorre, che so, un altro dei reati per cui molto spesso donne o transessuali si trovano in carcere è la prostituzione o il favoreggiamento o per certi aspetti anche lo sfruttamento. Ecco, tutto. Ma secondo lei che cosa ha in testa Nitto Palma quando dice, quando apre la depenalizzazione? Droghe leggere o anche la prostituzione? Non credo, però, perché mi sembra che su questo il governo non sia. Guardi, quando si parla con sì. i politici in separata sede, sono sempre a favore anche di questo tipo di depenalizzazioni. Occorre trovare il modo più trasparente possibile per far nascere un dibattito pubblico che porti poi a trasportare all'interno delle aule parlamentari il buon senso. Mandare in carcere qualcuno o perché vende il proprio corpo volendolo, non necessariamente perché chiaramente è sfruttato, o perché si vuole coltivare due piante di marijuana in terrazza per utilizzarle da solo con gli amici, o va a comprare un po' di hashish per passare una serata in modo diverso piuttosto che bere una birra, credo che non si, che sia qualcosa che può trovare consenso tanto a destra quanto a sinistra. Poi ci rimarranno i talebani del proibizionismo, come purtroppo esistono ancora al governo, che diranno di no, ma mettendo appunto sul tavolo sì. del dibattito dati ed esperienze anche europee, io credo che si possano trovare delle sintesi in crescita. Benissimo. Poi ci sono tutte le altre leggi che non vengono applicate, che devono essere applicate. Noi a dicembre dell'anno scorso abbiamo adottato il cosiddetto svuota carceri, sì. pur peggiorato alla Camera grazie anche all'Italia dei Valori, doveva mettere fuori dalle carceri 7.000 persone, ecco, neanche 2.500 sono uscite. Occorre applicare le leggi che ci sono, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Possiamo cancellare mezzo codice penale, ma si rimane nella stessa condizione di oggi. Bisogna assumersi delle responsabilità politiche. Le dichiarazioni a oggi di Nitto Palma vanno in quella direzione, e noi speriamo che anche il Presidente della Repubblica mantenga questa grande attenzione che ha manifestato nelle ultime 3 settimane, perché si può dar coraggio al Parlamento. Grazie Marco Perduca, buona serata, grazie per essere stato con noi. 19:32 minuti, e allora eccoci qua, ritroviamoci con le vostre telefonate dopo questa intervista all'onorevole Perduca sul sovraffollamento carcerario. Andiamo a Marco che ci chiama dalla provincia di Lucca, buonasera. Buonasera. Prego. A lei e agli ascoltatori. Allora, io volevo fare un intervento a proposito della tracciabilità dei pagamenti, perché ho sentito anche prima che alcuni hanno sostenuto che maggiore è la tracciabilità, quindi più si riduce il livello a cui avviene la tracciabilità e più è efficace la lotta all'evasione. Ecco, secondo ecco, me invece sì, glielo, avviene... facciamo, glielo facciamo sentire, Romano Prodi, poi dopo lo commenta, sentiamolo. Noi non possiamo andare avanti in questo modo, il paese andrà alla rovina se non c'è un discorso diverso sul problema dell'evasione fiscale. Mettere tutti in elettronico, mettere tutti in rete, obbligare a minimizzare l'uso del contante in un modo feroce è l'unica via per andare avanti. Tutto dovrebbe essere elettronico, secondo Romano Prodi. Prego, Marco, che ci chiama da Lucca. Invece, secondo me, sì. quello potrebbe, oltre ai problemi di privacy evidenti, ma poi ci sarebbe anche un altro problema, e glielo spiego bene con un sì. esempio. Lei considera tutta l'economia illegale, quindi l'evasione fiscale, la prostituzione, la droga, eccetera. Lei pensi a una signorina che svolge una sua prestazione e viene pagata con 500 euro in conto. La signorina il giorno successivo andrà in un negozio, ci comprerà un vestito, il commerciante, se è onesto, gli farà lo scontrino, e questi 500 euro che erano passati nell'economia illegale ritorneranno in quella legale. Se noi impediamo, mettendo la tracciabilità dei pagamenti, quindi obbligando questa signorina a pagare con la carta di credito, che no, e non lo può fare perché lei è contante, il commerciante sarà obbligato a non fargli lo scontrino. Oppure la signorina stessa dovrà andare da un commerciante. No, io non ho capito, mi scusi, perché non dovrebbe fargli lo scontrino il commerciante? Perché non glielo può fare, perché la signorina dovrebbe pagare con la carta di credito, mentre lei non può pagare con la carta di credito perché ha il contante, ha solo contante. Mi sono spiegato? Sì, sì, vada avanti, vediamo dove finisce il ragionamento, o è già finito? No. Le spiegavo, così questi 500 euro rientrano, altrimenti se non può pagare... E non rientrano più. E dove vanno? Ma mi sembra un caso un po' limite, perché insomma... No, è un esempio che riguarda sì. tutto il circuito del nero. perché in questo modo l'economia, diciamo, il denaro contante che va... Però mi scusi, però a parte il caso della prostituta, che sicuramente sarebbe un po' in difficoltà a tracciare l'incasso della serata, però negli altri casi, facciamo il caso dell'idraulico, così si arrabbiano tutti. L'idraulico perché dovrebbe avere difficoltà, invece con la tracciabilità sarebbe costretto a farlo, lui e chi paga? Dove starebbe l'inghippo in questo caso? Guardi, l'inghippo sarebbe esattamente nella stessa cosa della prostituta. Perché? Perché l'idraulico va, se è disonesto, chiede il pagamento in contanti. Giusto? Ma se bisogna fare la benedetta tracciabilità, i soldi che con cui il presunto evasore paga sono tracciati e quindi non sarebbe più possibile. E quindi o si rinuncia all'idraulico o bisogna tracciare. Totalmente l'uso del contante. E questo non è possibile. Questo forse è una controindicazione. Non è possibile fare questa cosa. Però guardi, oltretutto, sì, le annuncio una cosa, che questa cosa che dice Prodi l'ha fatta anche Tremonti, ha riabbassato la soglia della tracciabilità, non ai livelli che dice Prodi, cioè 500 euro, adesso io non so esattamente la soglia, però è stata fatta, quindi evidentemente... non lo so, ci sarà un fondamento. Comunque grazie a Marco che ha espresso i suoi dubbi su questa tracciabilità dei pagamenti. Flavia dalla provincia di Brescia, da Brescia, buonasera. Pronto, buonasera, grazie di avermi chiamato e saluto. Prego. Allora, dunque, riguardo ai provvedimenti che ha preso il governo, eccetera, a me sembra che siano tutti palliativi. Ora, tutti sanno cosa fare e non lo fanno. 50 miliardi di palliativi non è male, però non è poco. Sì, però è il come si fanno le cose. Si può fare le cose bene e male, è il come che non va. E mi domando, lo fanno, è così per incapacità o perché sono ciechi e si illudono di poter andare avanti come prima? Perché la prima cosa da fare è, i politici devono tirar giù le mani dall'economia, cominciando con tagliare gli sprechi, tutti gli sprechi, nelle cariche politiche inutili e con tutto quello che fa da contorno. Non parlo solo delle auto blu, parlo di tutto. Lei è stata arruolata da Crosetto, ha sentito l'intervento di Crosetto in apertura del programma che diceva più o meno le stesse cose? Solo in parte, perché ero al telefono. Per esempio, facciamo un esempio delle province. Si proclama abbiamo ridotto le province, ma se non servono, che cosa aspettiamo a toglierle? Abbiamo paura a ridurre e accorpare i comuni piccoli quando lo fa tutta l'Europa. Non si ha il coraggio di affrontare i problemi. Non si ha il coraggio, ma l'economia si fa col lavoro, non con i pezzi di carta della finanza che ci dice oggi più 3, domani meno 3, chissà che cosa c'è dietro. Allora, se l'economia si fa con il lavoro, prima di tutto bisogna aiutare gli imprenditori, rendendogli la vita un po' più facile. Va bene, grazie. Anche, Flavia, bisogna... grazie. Sì, grazie. Andiamo a Fabrizio che ci chiama da Bologna, prego. Pronto? Sì. Pronto, buonasera, sono Fabrizio. Niente, io volevo commentare e replicare su Crosetto innanzitutto, poi avrei anche da replicare sulla manovra dell'aumento dell'IVA, che dice l'hanno fatto in Germania e la possiamo fare anche noi. Ma un discorso secondo me è in Germania, dove l'evasione fiscale, il nero, diciamo, è una quota bassa, diciamo, rispetto a noi. Noi abbiamo un'evasione, un nero altissimo. Aumentare l'IVA non risolverebbe niente, anzi aumenterebbe di più, secondo me. Invece sarebbe una cosa molto molto valida far pagare il 20% dalle dichiarazioni dei redditi rientrati, anziché il 4 come è stato pagato. È quello che diceva Bersani, dagli scudi, dai capitali scudati, quello che esatto, anche, scudati, anche Maroni è d'accordo. Sentiamolo allora, forse Maroni, se ce l'abbiamo, il ministro Maroni, che dice si dice d'accordo con una delle proposte dell'opposizione, che è proprio quella che citava lei del PD. Vediamo, no, tra un attimo. Allora prego, vada avanti. Prego Maurizio, anzi Fabrizio, sì. Sappiamo quanti sono, anziché il 4 come è stato pagato l'allora, portarlo a 20 sarebbe una cosa giustissima, e lì ci servono già dei capitali che entrerebbero molto molto in fretta. Un'altra cosa ancora, che ascoltavo tempo fa Barisoni quando diceva la speculazione finanziaria, cioè quello che fa trading, che acquista oggi e domani vende, o dopo tre giorni vende, non si può lasciare al 12,50, anche quello portarlo al 20. Portarlo al 20 vuol dire non speculazione, ma il denaro che viene investito nel capitale della borsa rimane come investimento e lì si può fare. Bisogna lasciarlo al 12,50, quello che fa il trading, ma portarlo al 20. Come fanno in altri paesi. Grazie Fabrizio, e allora le facciamo sentire come annunciato, perché questa proposta che viene dal PD di tassare in qualche modo i capitali scudati, cioè quelli che sono rientrati con una, pagando una percentuale del 4-5%, adesso non ricordo esattamente, raccoglie consenso. Io ho visto un'intervista di oggi di Lupi, esponente del PDL, sul Corriere della Sera, ma c'è anche Maroni che apre su questa posizione, sentiamo. 1,6 miliardi circa di taglio ai comuni, che può essere forse azzerato attraverso altre misure. Leggo sui giornali proposte di vario tipo, dall'aumento dell'IVA alla ulteriore tassazione dei capitali cosiddetti scudati, lotta all'evasione, tante misure che io valuto con interesse, credo che il Parlamento, il Senato in primo luogo, valuterà con interesse, venute anche dall'opposizione. E allora, cari ascoltatori, dove andiamo? Matteo, che ci chiama da Genova, buonasera. Buonasera, buonasera, buon Ferragosto. Io sono, premetto che sono molto perplesso, perché stasera ho sentito parlare Crosetto e prima Prodi. Ammetto di essere un elettore di centrodestra, ma mi trovo molto più d'accordo con Prodi, che abbiamo vituperato, che con Crosetto. Su che cosa in particolare? Ma quando Crosetto dice che in Calabria c'è il 90% di evasione, lo dice come dire non possiamo fare nulla, questo è veramente paradossale, perché sì, potremmo non ridurlo a zero, ma qualche cosa andrebbe fatto. Quando Prodi dice sistemiamo con la tracciabilità dei pagamenti, ma basta andare in un supermercato, io ho la fortuna per lavoro di girare molto il mondo, mettiamoci alla cassa di un supermercato e guardiamo quanta gente in Italia paga col bancomat e con la carta di credito. Quasi e quanto tutti. Fa all'estero. In Italia pagano tutti, almeno 8 su 10 pagano in contanti, all'estero è esattamente il contrario, vuol dire che qualcosa nel nostro paese non funziona. Sì, beh, dipende dove, forse io vivo in una grande città, Milano, ho la sensazione che la percentuale sia più alta di gente che paga già con bancomat e carta di credito, almeno nei supermercati, però probabilmente dipende anche forse dalle città. 10 su 11, sì. 10 su, addirittura 10 su 11, quindi la maggioranza pagano in contanti, quindi secondo me sarebbe molto più semplice se anziché arrivare ai 500 euro si scendesse addirittura sotto. Io credo che se uno paga le tasse come lo faccio io, come credo e mi auguro lo facciano molti altri come me, non c'è nessuna paura a pagare di avere la tracciabilità addirittura 200-250 euro. Perché avere paura? Cioè abbiamo i soldi sul conto corrente, cioè abbiamo le cose tutta la luce del sole. Si tratta solo di volerlo. Il problema che mi pare di capire è che questa parte politica che sta governando, e ripeto, io l'ho votata, non abbia interesse a colpire l'evasione, perché le proposte possono essere tante, però bisognerebbe in qualche modo far vedere che si va un po' più incontro a quelli che pagano sempre le tasse. Cioè, perché secondo lei il centrodestra in questo momento non vuole colpire sull'evasione fiscale? Perché secondo pensa che ci sia una base elettorale, per esempio? Secondo me c'è una base elettorale, basta vedere il provvedimento della tassa sulla solidarietà. È nata dicendo che si faceva pagare sopra i 55.000 euro, se lei va a vedere quello che dice il Corriere stamattina, la fascia tra i 55 e i 90.000 non viene toccata, praticamente a zero, si riparte a 90.000, perché è verosimile che in quella fascia tra i 55 e i 95.000 e 90.000 euro ci sono la maggioranza degli elettori del centrodestra. Quindi alla fine il centrodestra, che doveva, a mio parere, ripeto, di un elettore del centrodestra portare la meritocrazia, portare in qualche modo anche una tutela maggiore, sta facendo esattamente il contrario. Per tutelare una base elettorale non fa quelle che sono le misure che almeno io come elettore loro chiederei. Grazie Matteo, grazie. Mauro da Savona, buonasera, prego. Buonasera direttore e complimenti per la trasmissione. Grazie, direttore è un po' sprecato, però insomma la ringrazio per l'incoraggiamento. No, ci mancherebbe. Sì. Allora, una battuta iniziale. Quando i bracconieri si mettono a fare i guardacacce, li fanno molto bene i guardacacce, e io mi riferisco a bracconieri in questo senso. Il signore che ha approvato questa finanziaria è un signore che fino a poco tempo fa pagava l'affitto in brevi mani, 1.000 euro alla settimana. Io non faccio nome, ma lei ha capito benissimo di chi, a chi no, mi no, ma si può fare il nome sul no, giornale. Nome, il ministro Tremonti, nome. No, ma perché non facciamo il nome? È vero sì. Questo? Sì, questo, sì. Signore si faceva, questo signore si faceva, pagava l'affitto a breve mani, sì. 1.000 euro al mese. Io per affittare l'appartamento di mia mamma che è mancata, ho dovuto prendere l'inquilino e portarlo in comune, farci fare la conformità dell'impianto. Ho dovuto fare la spazzatura dichiarando i metri quadrati dell'impianto. Ho dovuto fare una legge antimafia alla polizia e poi ho dovuto ancora andare in comune per un altro documento che era riguardo all'abitabilità dell'impianto, all'abitabilità della locazione. Dico bene, sì. Dico, signore? Non lo so, è lei che diciamo il protagonista della storia che ci sta raccontando. Sì. Il governo, mentre invece loro pagano a mille euro le sue breve mani e poi dicono ma io non ho rubato i soldi agli italiani, tu li hai rubati perché hai commesso un reato, non hai pagato le tasse. Dico bene o dico male? Grazie, ma lei cita il caso di Tremonti, adesso lì bisognerà ancora forse chiarire esattamente come è andata. Lui ha detto di non aver fatto nessuna irregolarità, però l'affitto in contanti certo non è il massimo, soprattutto per un ministro dell'economia. Adesso poi è passato tutto in cavalleria per via del momento di crisi che è stato affrontato e quindi del ruolo di primo piano che ha dovuto prendere Tremonti necessariamente. Però c'è un altro caso che lascia pensare come la morale italiana e quella di un altro paese a noi vicino come la Germania siano completamente diverse, ed è la notizia di oggi, l'avete sentita anche nel nostro giornale radio. Un politico, Christian van Bottiger, 40 anni, candidato a diventare ministro con la Merkel, ha dovuto dimettersi, gliel'avevano chiesto perché, e lui ha dovuto farlo, perché ha avuto una relazione con una 18enne o minorenne, non si capisce esattamente. Questo ricorda un caso italiano molto da vicino, potrei fare anch'io come l'ascoltatore, non cito nessuno, però è chiaro che mi riferisco a Berlusconi. Però vedete in Germania come vanno a finire queste cose. Ricordiamoci anche il ministro, credo, della difesa, su Gutenberg, che si è dimesso perché era stato accusato di aver copiato una parte della tesi di laurea. Salutiamo il nostro prossimo ospite, Clemente Mastella. Buonasera. Buonasera a lei. Caro Mastella, non è il mio caso questo, perché io sono tra i pochi che nella storia della Repubblica Italiana mi sono dimesso. Sì, quindi... questo è vero, è verissimo. Lei lo dice spesso, però questo è vero. Però non se ne prende granché atto. Ma no, invece è importante ribadirlo perché poi sono gesti che possono essere dimenticati, invece no. Senta Mastella, noi l'avevamo cercata per un'altra cosa, perché mentre il governo si affanna a cercare di risparmiare il risparmiabile, per esempio con questa manovra di abolizione delle province, lei ha dichiarato che sarebbe pronto a chiedere l'annessione dei territori confinanti per non perdere la provincia di Benevento. Lei non si arrende mai, Mastella? No, ma ci spieghi un po'. Non mi arrendo, perché è giusto non arrendersi, però io ragiono così. Se le province non servono tutte le province, nel senso che sono uno spreco istituzionale, anche se sono garantite dalla Costituzione, allora voglio capire come mai si tengono in piedi alcune province e non altre. E poi ancora aggiungo, ma le pare che nel momento in cui si tratta, in termini di contabilità dello Stato, di risparmiare qualcosa, si risparmi dai 18 consiglieri provinciali di Benevento o da quelli che sono magari 48 di Milano, quelli di Napoli o di Roma o di altre città più grandi, si risparmia più là. Però allora, mi pare una cosa un non senso. Cioè, se vogliamo venire a tutte le province, benissimo. Cioè, lei mettiamo qualche puntino su lei. Cioè, se si dicesse vogliamo tutte le province, lei sarebbe d'accordo. Benissimo. Però se si elimina alcune sì, altre no, ma scusi, può essere un contenzioso, ha visto già oggi che la regione Sicilia, la Sardegna e il Friuli, siccome hanno potestà dal punto di vista costituzionale, certo, e debbono decidere loro, e lo Stato non può mettere becco il governo nazionale, quelle resteranno in piedi, magari anche quelle di 30-40 mila abitanti della Sardegna e la mia Benevento con quasi 300 mila abitanti, perché il sfiori 300 mila abitanti va a casa. Insomma, questo non mi pare che sia giusto. Però io mi permetto di contestare questo punto di vista, legittimo per l'amor del cielo. Però dico, qualche giorno fa sul Corriere della Sera Stella e Rizzo, che su insomma magari qualche volta anche facendola arrabbiare, però insomma sul taglio ai costi della politica hanno scritto e anche diciamo così favorendo l'apertura di questo dibattito in maniera anche, credo, credo con buon senso e con intelligenza, loro dicevano: caro Mastella, ma non parlavano con lei, è vero che bisognerebbe abolirle tutte le province, ma se questa cosa non riusciamo a farla mai, perché forse è un obiettivo troppo alto, per risparmiare qualcosa non vale invece la pena di cominciare a fare il fattibile, cioè abolire quelle piccole? E qui io dico: aboliamo la provincia dove sta Stella e dove sta Rizzo, perché no? Cioè, non capisco, insomma, il dato per cui bisogna partire da Benevento con molta oggettività. No, ma non credo che nessuno parta da Benevento, se non in ordine alfabetico. Ma questo è, cioè, allora io faccio una controproposta. Sì. Cioè, qual è la spesa? Siccome da questo punto di vista nessuno ha detto quali sono, diciamo, le sofferenze che la provincia di Benevento rende allo Stato italiano e ai cittadini italiani, quant'è, per quanto grava Benevento? Ce la accogliamo noi beneventani? Cioè, paghiamo noi rispetto allo Stato, facciamo noi la nostra vista che non si vuole mettere a tasso sulla patrimoniale, ci tassiamo noi. Però poi e non è più giusto così. Li convince lei i cittadini di Benevento a tirare fuori i soldi per mantenere la provincia? Non lo so. Se il referendum dice che i cittadini vogliono e paga una tassa addizionale, da questo punto di vista rimane in piedi la provincia. Ma questo sarebbe un altro paio di maniche. Però intanto lei dice: lei vorrebbe annettersi dei territori che io non conosco. Vede, c'è una grande discussione, perché tenga conto che il Molise salta a pie pari le due province che ha, Campobasso e Isernia. Si è sempre parlato, e storicamente c'è, cioè, questo sannio che è costituito dalla provincia di Benevento, dall'intero Molise. Sì. Da parte della provincia di Caserta, Avellino e finanche Foggia e L'Aquila. Allora io ho detto: facciamo eventualmente una richiesta per cui, come dire, la regione Molise diventerebbe una regione più appetibile, nel senso di 700-800.000 abitanti. Sì. E allora a questo punto garantiamo la provincia di Benevento e garantiamo pure il Molise. Cioè, passando sotto il Molise. Esattamente. Ma guardi che noi confiniamo col Molise, non confiniamo con Napoli, Ma queste valli Caudina, famosa, quella delle Forche Caudine, e la valle Alifana, quanta gente ci abita in queste valli? Ah, ma guardi, ci abiteranno, credo, 30.000 abitanti, ma questi storicamente, cioè, tenga conto che io le prime volte che sono stato eletto mi hanno votato tantissimi di questi giovani, perché venivano con me a scuola a Benevento, non andavano mica da Avellino. E l'Alifano gravitava su Telese, ricorderà Telese, che è stata per un bel po' di tempo un po' capitale della politica italiana quando facevamo le feste, diciamo, delle due euro a Telese. Quindi si tratta di scegliere anche là, magari in maniera referendaria, non è che si può decidere con un tocco di penna il Ministero degli Interni fa come faceva con le circoscrizioni elettorali, si decide a chi annettere un paese o l'altro e decide i burocrati, perlomeno un minimo di democrazia c'è su questo. Ma per esempio lei pensa che, perché inizialmente si era detto le province sotto i 300.000 abitanti verranno abolite, era stato fatto un calcolo 34. Poi mancano 283.000, quindi manchiamo di poco noi. Ma a parte questo, poi è stato detto aggiungiamo anche il criterio della superficie della provincia, e la provincia del ministro Tremonti, Sondrio, che prima era compresa tra quelle da abolire, poi è uscita fuori e adesso non sarebbe più. Lei pensa che c'è stata una manina su questo? E me lo dice. Ride. Pure. Non so. Ne una è convinto. Manona, una manona. Una manona enorme, enorme. Ora che Sondrio debba essere lasciata, insomma, Benevento no, francamente, insomma, anche tutta la storia. Benevento ha la sua vitalità storica che Sondrio certamente non ha, con tutto il rispetto per Sondrio. No, devo dire che quando si passa dalle parole ai fatti, anch'io scorrendo l'elenco delle province, per esempio la Liguria rimarrebbe senza province, credo forse anche la Sardegna, Trieste rimarrebbe senza province essendo capoluogo di regione, quindi evidentemente qualche correttivo andrebbe messo. Apportiamo i correttivi, scendiamo a 250.000, vediamo chi si vuole accorpare, vediamo un po'. Però sa cosa pensano i cittadini che ci ascoltano? Pensano: è tutto giustissimo, però di questo passo non risparmierà mai nulla lo Stato italiano, che invece ne ha bisogno. Le province, scusi, ma qual è il motivo per cui non eliminarle tutte? Se non hanno più, se sono un non senso dello Stato nella geografia e nella ripartizione costituzionale, eliminiamole. Però lei, che ha una grandissima esperienza di amministratore pubblico, perché insomma non è da poco che è in politica, secondo lei le province servono o non servono? Ma secondo me, insomma, se uno gli dà un valore, servono tutte quante le cose, servono e non servono. Però già lei ha messo una condizione, sì, secondo me sì, servono. Cioè, servono se tu gli hai i poteri delegati, e le regioni, certo, se poi le regioni fanno cose un po' strampalate, nel senso che aumentano i consulenti a dismisura, patrocinano cose impatrocinabili, ma questo vale per le province, vale anche per le regioni, vale per tutti, cioè non è che sia soltanto per le province. Sì, sì, no, questo sì, però, dei però dei quali stando proprio alle competenze che hanno oggi, al di là di quelle degli eventi più o meno stupidi e superficiali che possono patrocinare le province, stando alle competenze di oggi, sarebbero avocabili. L'evento cessi la sua funzione istituzionale, deve essere annessa un'altra parte, quindi le stesse funzioni saranno svolte dalla provincia limitrofa. Allora mi spiega qual è il vantaggio? Non avere per esempio la sede del consiglio e della giunta, non avere i consiglieri e i membri della giunta, il presidente. Sono 18 i consiglieri comunali, la giunta sono 6, non è che siano questi, diciamo, che hanno una presenza così massiccia. Ora, rispetto ai 54.000 di cui dichiarava Berlusconi, insomma, sì. 25 persone mi pare che sia la fine del mondo. Ma tra diciamo abolire o quantomeno ridimensionare il numero delle province e invece l'altro tema che è all'ordine del giorno, quello dei comuni, perché anche qua si stanno già facendo le distingue delle perplessità. Lei guarda, quale strada? Provai, quando ero sindaco di Cepaloni, sì. ho provato e sono in parte. Quanti abitanti? Ma Cepaloni fa quasi 4.000 abitanti, quindi no. Non rischia. Fare Benevento, fare Ruggero e Cepaloni, dopodiché è la fine. Mastella chiuderebbe, senza Benevento e Cepaloni sarebbe la fine bottega, per lei. No. Devo dire, invece mi si assieme i servizi, perché mi pare logico, insomma, che comuni che sono limitrofi, non soltanto quando hanno una entità ridotta dal punto di vista, diciamo, degli abitanti e dei residenti, però anche se ne hanno di più, quello di mettere in comune, come io feci, che so, il comandante della Guardia Municipale era uguale per il mio paese e per altri paesi, il segretario comunale era uguale per il mio paese e gli altri paesi, insomma, di mettere assieme una serie di servizi, là è risparmio. Lei questo l'ha fatto? Sì, l'ho fatto. Sì. E quindi, diciamo, più che anche in questo caso accorpamento, lei dice si possono razionalizzare. Anche i servizi e il costo dei servizi viene in parte, in larga misura, dimezzato. Senta, Mastella, le voglio chiedere un'altra cosa, perché come sa a Ferragosto c'è il classico tema dell'affollamento carcerario. Oggi c'è stata una conferenza del neo ministro della giustizia Nitto Palma, che ha detto aperto a depenalizzazioni per qualche reato, arresti domiciliari, cose che si sono sentite dire per la verità mille volte, anche quando era ministro lei, ce lo consenta. Ma chi... Lei però ha dimenticato che io ho fatto una cosa che ha sguarnito le carceri. Eh no, lo so, certo, come dimenticarlo l'indulto? Questo è l'indulto, quindi non però, mi dica che me l'ho depenalizzato, no, per... il massimo di depenalizzazione, anzi sono stato accusato all'incontrario. Esatto, sì, però si disse... Devo dire a questo punto di vista che dal punto di vista dei dati, sì, la recidiva ha funzionato dopo l'indulto, prima era al 30%, dopo l'indulto al 17%, invece sono stato anche accusato meno di mandare i delinquenti per strada. Anche meno, io sono andato a riguardare i dati qualche giorno fa e c'era uno studio che diceva che la recidiva era dell'11%, quindi molto bassa. Sì, però chi... allora non so se lei ha partecipato, ma insomma ci fu una fiera contro, sì, di me, cioè ritenendo che tutti quelli che uscivano o commettevano reati erano quelli che erano usciti per l'indulto, era colpa mia, quindi tanto per essere chiari. No, io personalmente non sono contrario all'indulto. Ma la mia domanda era un'altra. Sì. Mediaticamente, ma comunque pazienza, anche i giornali che come dire oggi lanciano appelli, giornali, sì, di sinistra, quando ha la cultura di sinistra, che non vede in quella circostanza né quella di destra né quella di sinistra, e manco quella di centro. Però detto cultura, che sì, era assente in quel periodo, era un momento di latitanza della cultura in Italia, di quella d'avanguardia. La domanda che però volevo fare è questa, sì, perché l'indulto è stato fatto dicendo comunque che era una misura d'emergenza, dettata dall'emergenza, e che poi per evitare che si riproducessero i soliti meccanismi di sovraffollamento bisognava intervenire con nuove carceri, con varie depenalizzazioni. Tutto questo è stato promesso e non è stato fatto. Come mai? Di chi è la colpa secondo lei, Mastella? Non me lo dica a me, a me lo dai fatti peggio, qualche magistrato è da rimandarmi nelle carceri, quindi come tale non è che posso dire, ma perché insomma c'è una finta sensibilità, il fatto stesso che questa sensibilità scoppia ad agosto quando non frega nulla a nessuno, ognuno è in vacanza, questo la dice lunga, cioè diventa un rituale che voi mettete nei notiziari, sia quelli radiofonici, qualche giornale che esce poi il giorno dopo, Ferragosto, ma insomma, dalle alla fine è sempre colpa dei giornalisti. No, sto scherzando. Diciamo è una cosa che mediaticamente intriga poco, cioè insomma non c'è questo di quelli che sono detenuti antecedenti. 40%, ci fu un boato quando venne approvato l'indulto e quelle persone lì poi, come ci ricordava giustamente lei, hanno ripreso la strada del crimine meno degli altri che hanno avuto la pena normale, quindi lei questo lo ritiene un successo? Beh, nessuno me lo scrive a merito. Pazienza, insomma, spero che qualcuno si ricorderà di me quando sarò passato a miglior vita. Sicuramente gli indultati, quanti furono, se lo ricorderanno? 20-25 mila? Ma questo per il dato non è che è possibile farlo, perché insomma c'era un po' d'approssimazione da questo punto di vista, non... perché poi erano scaglioni quelli che subentravano e uscivano di volta in volta, insomma. Però no, incontro indultati che mi dicono: ah ministro, poi qualcuno mi dice l'amnistia, ho detto io già ho patito per l'indulto, l'amnistia poi peraltro ora non sono più nella Corte Nazionale in maniera diretta, quindi non tocca a me, tocca a chi ha un po' di coraggio per farlo, non lo fa. Grazie Clemente Mastella, buona serata. Numero verde 824-0024, Roberto da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Io volevo fare un intervento per quanto riguarda la patrimoniale. Sì. Cioè, il nostro... Lei è favorevole? Io sono favorevole, certo. Cioè, se il nostro Presidente del Consiglio piange di sangue nel cuore perché deve tassare alcune persone, il modo migliore per farlo sanguinare è fare una cosa equa, è quella là della patrimoniale. Cioè, se la patrimoniale è la cosa diciamo più utile che colpisce i grandi evasori, cioè con quello tu riesci a vedere se loro hanno evaso, se loro praticamente hanno degli immobili e non li dichiarano. La patrimoniale secondo me oggi è lo strumento migliore per far emergere la grande evasione, e poi così diventerà una cosa equa per tutti quanti. Grazie. E i cuori non piangeranno. Grazie Roberto. Titoli della 7. Nel PDL cresce il dissenso contro alcune misure della manovra. Un gruppo di 9 fedelissimi di Berlusconi esce allo scoperto e chiede la revisione della tassa di solidarietà, forse in sintonia con gli umori dello stesso Premier. Il governatore della Lombardia, Formigoni, con queste tasse il PDL perde la sua identità. Il ministro Maroni si affianca alla protesta dei sindaci leghisti e critica i tagli agli enti locali. Il testo non è blindato, si possono azzerare le restrizioni contro i comuni, dichiara Maroni, che apre alla proposta del PD di tassare i capitali rientrati con lo scudo fiscale. Sulla sicurezza avverte: nessun taglio. Il segretario del PD Bersani scettico sulla reale volontà di confronto del governo in Parlamento e attacca: l'esecutivo non ha credibilità. Critiche dure anche dall'UDC. Allo stato attuale queste misure non si possono votare, ma da noi nessun ostruzionismo. Dalla Banca Centrale Europea acquisti record di titoli di Stato, soprattutto italiani e spagnoli. Una notizia che dà spinta alle borse che chiudono in positivo. Attesa domani per Piazza Affari. Al vertice di domani tra Merkel e Sarkozy non si parlerà degli eurobond invocati da Tremonti, che non piacciono a Berlino. Rapito in Darfur un operatore di Emergency, Francesco Azzarà, 34 anni, è stato sequestrato da un gruppo di uomini armati mentre andava in auto all'aeroporto della città di Niala. Non ci sono delle piste ed è stato attivato un canale, ma serve riservo, ha detto il ministro degli esteri Frattini, il fondatore dell'ONG Strada, un episodio del tutto inatteso. Telecamere spente sul processo al Cairo a Hosni Mubarak. Alla seconda udienza con l'ex rais egiziano in aula, di nuovo in barella, il presidente del tribunale decide di vietare le riprese TV fino alla sentenza per non umiliare il faraone. Fuori violenti scontri tra oppositori e sostenitori dell'ex dittatore. Il processo per l'uccisione di 850 oppositori e per corruzione riprende il 5 settembre. Allora, abbiamo ancora l'ascoltatore di prima, Roberto, forse l'abbiamo troncato perché c'erano i titoli della 7. Lei ha detto che il cuore di Berlusconi può smettere di grondare sangue approvando la patrimoniale, così? Pronto? Roberto? Sì. No, sono Sandro. Non allora, no, l'abbiamo perso. Quello. No, mi incuriosiva perché insomma, non credo che sia quello il senso che voleva dare Berlusconi alle sue parole, però poteva essere un modo di vederla, confrontando la patrimoniale con l'altra misura che è stata fino adesso inserita nella manovra, la tassa di solidarietà, che non piace a molti. Io ho già detto, non capisco perché, visto che riguarda solo 500.000 contribuenti italiani e darà un gettito di 1-2 miliardi di euro, non mi sembra quella la misura sulla quale concentrare l'attenzione di una manovra che consta di 50 miliardi di euro. Abbiamo Sandro, allora, da Torino. Prego. Buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo semplicemente, sì, intanto le faccio complimenti sempre, soliti complimenti per la trasmissione. Grazie. Che è molto interessante. Prego. Dunque, una puntualizzazione su quel che ha detto, adesso mi scusi se non ricordo il nome, quel signore di Radio Radicale. No, non di Radio Radicale, era un onorevole radicale, Marco Perduca, un senatore dei radicali. Ecco, un, sì, senatore dei radicali, va bene. Sull'argomento stupefacenti, in realtà il consumo di droghe leggere è già stato depenalizzato. Cioè, il consumo che nel DPR 309 del 90 diceva che il consumo personale era relativo alla quantità, cioè se uno veniva arrestato con un certo quantitativo che superava un certo limite era perseguibile penalmente, sotto un altro limite non lo era più. Poi nel 96 il limite, il quantitativo è stato abolito. Qualsiasi quantitativo che venga trovato in mano a un consumatore e che dica io lo ce l'ho per consumo o d'uso personale è passibile semplicemente di sanzione amministrativa, no, ed è penalizzato. Non è vero che si finisce in prigione. Cioè, qualsiasi quantitativo di droga, secondo il DPR 309 del 90, rivisto nel 96, dice testualmente che in base naturalmente agli accertamenti della polizia, eccetera, che qualsiasi quantitativo, purché sia dimostrato che sia ad uso personale, è depenalizzato. Cioè, è qualcosa che non va, però c'è, caro ascoltatore, perché altrimenti come mai in galera ci sarebbero così tanti detenuti proprio per questo tipo di reati? Certo, perché se naturalmente la trovano con, sì, un quantitativo enorme, con il bilancino, con i sacchetti, eccetera, eccetera, questo non è ad uso personale, sia ben chiaro. Ma se io ho le piante di cannabis sul terrazzo o l'orticello le coltivo e dimostro che le uso per me o per i miei amici perché facciamo i festini, io semplicemente ho una multa e basta. Quindi direi che bisognerebbe essere un po' più precisi quando si affrontano argomenti così delicati, soprattutto da parte di chi fa parte delle istituzioni, nel fare questo genere di comunicazioni. Va bene, staremo a vedere, perché anche il ministro della giustizia, Nitto Palma, parla di una possibile, diciamo, serie di depenalizzazioni proprio per svuotare sostanzialmente le carceri, per far entrare meno persone sicuramente in carcere con reati che sarebbero depenalizzati. E credo che abbia in testa anche quei reati lì, di droghe leggere, eccetera. Non so, ma credo che ci sia anche quello, nonostante quello che ci dice l'ascoltatore. A me non risulta, ma può darsi che mi sbagli io. Maurizio da Roma, prego. Buonasera. Senta, sì. Allora, dopo la bufera della borsa italiana, lo spread a 300, il governo si è deciso di fare questa benedetta manovra aggiuntiva, integrativa, chiarendo che viene imposta dalla BCE, quindi la chiamata eurotassa. Allora, da una parte imposta dalla BCE, da una parte imposta quasi dal Ministro dell'Economia, che ci ha deliziato con l'annuncio del suo prossimo libro, eccetera. Adesso c'è una marcia indietro da parte di molti esponenti del governo, eccetera. E intervengono le, sì, persone normali, diciamo, normali, che non hanno una competenza particolare, come me, vendere i beni culturali, l'idraulico che va dalla prostituta, non ho capito bene qual è il problema, eccetera. E l'onorevole Rotondi, che ho sentito in questi giorni, sì, dice che la dichiarazione del politico vada al momento, ma non ad esempio, che ne so, dopo una settimana, immagino, sì, quello che però non ho capito, sì, l'onorevole Crosetto e tutti quelli che si esprimono come lui, come politici, ma che cosa ha detto? Lei l'ha capito? No, io gli ho fatto delle domande, poi, con molta pazienza, sì, ma che cosa ha detto? Ma non lo so, tu l'ha capito, me lo dica lei che cosa ha detto secondo no, lei. Ha detto tutto il contrario di tutto. Tutto, come stanno facendo tutti quanti, politici e non politici, quindi così non si va da nessuna parte. Sì, devo dire che lui ha detto un paio di volte, sono sottosegretario alla difesa, non sono le materie economiche le mie, e però nel dibattito ha intervenuto, sembrava avesse una posizione molto netta di critica alla manovra Tremonti. Lui ha detto sostanzialmente che ci vorrebbero più tagli alle spese improduttive dello Stato, dimagrire la macchina dello Stato. Poi quando però siamo andati nel dettaglio delle varie misure patrimoniali, rendite finanziarie o quant'altro, ha detto un po' tutto il contrario di tutto. Sì, questo forse sì. Vuole andare avanti? Più che altro, sì, perché non è facile. Va bene, grazie Maurizio. Angela, l'abbiamo chiamata, buonasera. Prego, sì. Finalmente. Complimenti per la trasmissione, però vorrei suggerire una cosa a tutti i politici nostri. Sì. E che mi ha sorpreso che la parte opposta non abbia detto no questo, no quest'altro, ma quasi quasi sono d'accordo. Perché nessuno ha mai suggerito di mettere le mani nelle loro tasche? Sa quanta gente l'ha suggerito in questi giorni? Nelle tasche dei nostri politici, perché sì. Noi italiani dobbiamo mantenere 3 macchine al presidente, ma perché? Se io per mantenere una macchina ho fatico veramente. Il presidente della Repubblica italiana deve avere 3 macchine blu. Ma adesso per però motivo? Non è che possiamo mandarlo a giro in motorino il presidente della Repubblica. 3 macchine forse se ne possono fare 2, ma insomma non... La macchina dello se ne può Stato anche fare una, costa, signora, ma non è che... Sì. Ci costa più di 2.000 euro al secondo. La macchina del napoletano 2.000 euro al secondo? No, la macchina, la macchina della politica. Ah, cioè bene, tutto sì. L'ambaradan della politica, che sì. Dobbiamo mantenerli bene, questi politici, che poi non hanno mai fatto i nostri interessi, tutt'altro. E le dirò di più, ho letto su un giornale questa cosa veramente stomachevole, che hanno speso 4.400 euro per sì. 50 asciugamani. Ma che usassero i rotoloni di carta? Lei ha qualcuno che le suggerisce di fianco, chi è suo marito? Sì, avevamo letto il giornale insieme, sì. E questa cosa effettivamente mi disgusta, perché se mangiano al Senato con 1,50 euro, 1,80 euro mangiano, però per pagare un cameriere ci vogliono i soldoni e sprecano tanto, perché conosco persone che ci lavorano e per fare un buon piatto ai nostri politici ne buttano magari 50 di roba da preparare, e c'è gente che muore di fame. Cioè, ma è possibile che nessun altro politico dalla parte opposta, dica... Signori, ma che vuol dire dalla parte opposta? In che senso? Dall'altra parte, dico il PD, dico Di Pietro e quant'altri. Cioè, si accetta qualunque cosa fa questo governo. Non sta facendo gli interessi dei cittadini. Io non mi sento affatto rispettata, garantita. Io l'ho votato questo governo, però sinceramente non sono d'accordo a quello che stanno facendo. Grazie Angela, grazie. Sì. Grazie. Io voglio salutare il prossimo ospite, Giuseppe Arena, fondatore di Arena Ways. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, adesso lei ci racconterà la sua vicenda, perché nella manovra si parla per esempio di liberalizzazioni, una parola con la quale non dico che ci si riempie la bocca, però insomma, sicuramente viene citata tante volte, forse anche a sproposito. Si dice che si liberalizza e poi non si liberalizza mai. La sua storia, per chi conosce Arena Ways in Piemonte, probabilmente ha già capito dove andiamo a parare, è esemplare da questo punto di vista, perché adesso lei ci spiegherà come, ma lei ha tentato di entrare nel mercato del trasporto ferroviario Torino-Milano. Sì. E poi però qualcosa non è andato bloccato Nel verso giusto. Ma infatti liberalizzazione è una parolona, cioè nel senso che lo si dice soltanto quando si fanno i dibattiti. Però no? Poi mettersi lì piano piano a liberalizzare, cioè a, per esempio nel suo caso, a fare la linea ferroviaria Torino-Milano per i pendolari, una linea affollatissima. Non è proprio così, non è proprio così. Adesso è passato Come informazione Torino-Milano. In realtà, No, ci spieghi lei allora benissimo tutto quello che è stato il suo progetto. Ma infatti Arena Ways, che è un'impresa ferroviaria che è entrata nel mercato, è stata fondata nel 2006, ma la sua attività si rivolge in 3 settori particolari. Una, quella per favorire i collegamenti internazionali, sì. Noi facciamo le parti nazionali e dal 2010 operiamo i treni della Deutsche Bahn e delle ferrovie olandesi che portano, chiamiamo così, turisti da aprile a ottobre in Italia, con treni notte di qualità con auto al seguito. L'anno scorso ne abbiamo portati 25.000, quest'anno potremmo correre il rischio di portarne 40.000. No? Mi faccia fare ancora un passo indietro, lei è vero che è un ex capostazione? Sì, io ho avuto un passaggio anche, non sono entrato con i pantaloncini corti in ferrovia, sono entrato per curiosità, perché io sono laureato in economia e specializzato in diritto industriale, quindi sono entrato non perché cercavo un posto di lavoro come molti dirigenti nelle ferrovie che sono entrati perché cercavano un posto di lavoro così. Io sono entrato quando, per curiosità, ho avuto voglia, ne sono uscito sì. quando ho detto adesso la ferrovia la faccio io, ecco, cosa che ho fatto, perché adesso poi lei, la terza impresa ferroviaria. Lei ci spiegherà meglio il servizio che Arena Ways, perché io ho semplificato Torino-Milano per i pendolari, ce lo sì. spiegherà meglio, però prima diciamo una cosa, se no gli ascoltatori che non conoscono la vicenda sì. non capiscono. La, qualche giorno fa lei praticamente ha dovuto portare il libro in tribunale o quasi, perché sì. Per una serie di ostacoli che si sono frapposti alla nascita e alla vita di questa impresa del trasporto non solo locale, qualcosa è andato storto. Ci racconti questo passaggio? Beh, le dico subito, da quando siamo nati, tenga presente che non è che siamo nati e abbiamo inventato questa impresa pensando di poter di inventarci poi delle regole. Le regole c'erano, cioè ci sono, no? E soltanto, come in questo bel paese, grazie alla lobby monopolistica e ai politici che parlano tanto di liberalizzazione, in realtà le parlano solo per intrattenere grande pubblico e basta, in realtà quando è stato il momento dell'avvio del servizio, che era un servizio che collegava le province piemontesi, non soltanto Torino-Milano, no? Due giorni prima dell'avvio, dopo una campagna pubblicitaria che ci ha costato un sacco di soldi, ma ripeto, noi seguiamo le regole del gioco. Sì, non sì, è sì. Le regole che prevedevano, la possibilità per nuovi operatori di entrare sul mercato del trasporto ferroviario. Due giorni prima? Due giorni prima dell'avvio del servizio mi dicono che non posso fare non posso fare le fermate. Allora era inutile fare un giro di 343 chilometri che toccava Torino, Vercelli, Novara, Milano, Pavia, Alessandria, Asti, e non poter fare le fermate, cioè avrei fatto un giro, cioè praticamente dovevamo fare il moto perpetuo, no? Girare sempre per in movimento. Resti in linea, Giuseppe qua, Arena, perché adesso dobbiamo fare una pausa, manco a farla apposta per le informazioni sul traffico, e poi prosegue nel racconto della sua esperienza di fallita liberalizzazione. Siamo in linea con Giuseppe Arena, fondatore di Arena Ways. I suoi sì. treni erano di colore giallo-arancione, se non ricordo male. No, non sono ancora. Ecco, sì. No, perché magari io la sto facendo anche troppo okay. tragica, perché in realtà poi due giorni prima le hanno detto che non poteva più fare delle fermate. Sì, perché le volevo dire che nel corso d'opera, tenga presente che l'impresa è nata nel 2006, sì. ha iniziato a operare regolarmente con tutte le licenze, certificati, eccetera, eccetera. Due giorni prima, in virtù di un articolo letto che è stato inserito in una delle solite leggi polpettone, no? Quella del 2009, sì. dove è stata introdotta una legge polpettone, due articoletti dove c'è scritto che se c'è un operatore privato su una linea dove c'è l'operatore nazionale sì. che ha dei contratti di servizio, no, che sono pagati, come era nel suo caso, sì. Allora questo operatore privato potrebbe rompere l'equilibrio economico dell'operatore nazionale, quindi deve essere mitigata la sua opera. Come? Per esempio non facendogli fare le fermate, così la gente non sale e si mitica. Cioè è un paese dove... Beh, certo, come liberalizzazione non c'è male, impedire... No, dico, come liberalizzazione non c'è male. Dice, prego, lei può mettere il treno, però non deve far salire i passeggeri. E questo è il nostro paese. Ma paese però mi scusi, adesso non conosco questa norma di cui le parla del 2009. 59, legge sì. 99. Sì. Ma chiaramente è una legge, è un articolo. Cioè, no? Lei pensa che sia stata fatta apposta per lei, per fermare, per non fare concorrenza a Trenitalia? Senta, io faccio fatica a pensare che un parlamentare al mattino dice, oh caspita, c'è Arena West, adesso lo blocchiamo perché sta povera Trenitalia, dobbiamo fargli qualche cosa, così via. Cioè, il commento lo faccia poi lei, no? Capisci? Sono quattro righe di una cosa del genere, quindi che è anti-liberalizzazione. Ma lei avrà fatto ricorso o qualcosa contro questa legge? Io ho fatto ricorso. Dato che i tempi sono anche veloci, il ricorso è del novembre e dicembre dell'anno scorso, la risposta del TAR sarà il 6 ottobre, quindi capisci, dopo un anno. Cioè, pensi come devono campare le aziende e lavorare in questo modo qua, in questo sì. paese. Tenga presente che credo che il mio problema fondamentale, per sì. andare a centrare sull'obiettivo, è questo. Che siamo un'impresa che ha creato posti di lavoro, che ha lo stesso contratto di Trenitalia, anzi migliore per certi versi, no? Che ha creato posti di lavoro, il materiale ferroviario se l'è comprato lei direttamente, no? Non ha chiesto contributi né per la formazione, abbiamo 74 dipendenti giovani, non sono lavori precari, sono tutti con contratti a tempo indeterminato, no? 74. Non abbiamo chiesto contributi né per la formazione né anche dopo, il nostro servizio nasce per fare servizio su alcune linee che deve stare, diciamo, in piedi col prezzo pagato dal contribuente, cioè dal cliente. Perché non chiediamo soldi. Adesso però lei ha dovuto portare i libri in tribunale o quasi qualche giorno fa. Cosa è successo? Gli azionisti di maggioranza, non io, sì? No? Nonostante non sia un'impresa assolutamente precaria, perché sì? Gli stipendi abbiamo sempre pagati regolarmente, contributi anche, tutto e con soldi in cassa, soltanto che la fatidica maggioranza, 51%, praticamente spaventata dal fatto che abbiamo le regioni contro, le regioni quelle che pagano delle cifre enormi a Trenitalia, per dire, no? E così via, ci sparano anche contro. Capisci che la maggioranza degli azionisti dice: qui tanto non ci fanno lavorare. Ma che c'entra la regione che le spara contro? Non ho capito questo. Cosa c'entra la regione che le spara contro? Allora, devo ritornare all'articolo 59 solo un attimo, no? Sì, però velocemente, se no ci perdiamo. No, allora, chi blocca l'attività ferroviaria, no? L'ho detto, l'ufficio di regolazione dei servizi ferroviari, grazie a quell'articolo 59, ma l'ufficio di regolazione non interviene autonomamente, ma solo su sollecitazione di alcune entità. Quali? Senta, la interrompo perché qua diventa troppo complicato, altrimenti non abbiamo il tempo di affrontare questo aspetto. C'è un ascoltatore che chiede al 349-238-6666 perché lei è stato allontanato dalle Ferrovie dello Stato. Io non credo che sia questo. Un ascoltatore chiede perché lei è stato allontanato dalle Ferrovie dello Stato, è vero? Come allontanato io? Non lo so, è una domanda io che viene fatta. Mi sono licenziato nel 93, nel 92. Come allontanato? No, è una domanda che le faceva un ascoltatore. Senta, ma alla luce di... Ma ha detto allontanato significa mi ha sbattuto fuori. Io non sono, forse si confonde con Arena Raffaele che non c'entra niente con me. Ecco, sì, forse è questo. Senta, ma... della manutenzione, io non c'entro niente. A questo punto lei si sente ostacolato perché lei non ha voluto trarre le conclusioni, però quella norma che ha impedito a lei di far partire i suoi treni sostanzialmente. Sì. Secondo lei è stata fatta per difendere Trenitalia? Ma è evidente, no? Cioè non mica ci vuole 5 lauree per capirlo, no? Cioè è evidente, è una norma che limita praticamente l'attività e per non rompere il cosiddetto equilibrio economico di Trenitalia, che prende un sacco di soldi, ecco. Cioè non è che ci vuole molto a capirlo, ecco. Quindi lei adesso ha fatto ricorso, il 6 ottobre ci sarà la risposta, nel frattempo... Nel frattempo noi stiamo facendo, abbiamo un esercizio provvisorio che ho chiesto al curatore alimentare, la mia lotta continua perché visto che la maggioranza mi è andato contro, io sto ricostituendo, cioè per ricomprarmi l'impresa. Ecco. Ma quando lei vede che il governo parla adesso di liberalizzazioni, sì, cosa pensa? Le viene da ridere o da piangere? Mi viene da ridere, mi viene da ridere perché io lo sento da una vita, tra l'altro dal punto di vista governativo questo sarebbe il governo liberista. Ecco. Ma nessuno è intervenuto in suo sostegno? Ecco. Un politico locale? Nessuno è intervenuto in suo sostegno? Un politico locale? Un politico nazionale? Nessuno, se qualcuno adesso si sta svegliando in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni, devo dire. Ma dal punto di vista, devo dire, lei mi ha interrotto prima, parlava della regione. La regione, diciamo, non è che siamo, cioè, la regione Piemonte è una di quelle regioni che non sostiene l'attività liberista dei nostri servizi. Tra l'altro, mi spieghi. Ma era la regione di Cota o quella della precedente Mercedes Bresso? O tutte e due? No, quella di Cota, Mercedes Bresso mi sembra che avesse anche indetto una gara per una prima gara per il trasporto pubblico locale, no? Che è quella che le ha consentito poi di entrare. Non mi ha consentito. Perché io non ho fatto una gara, io sono operatore privato, come ne esistono un sacco in Europa, lei lo sa quanti ce ne sono, 388 compagnie ferroviarie private in Germania e in giro per tutta l'Europa, noi siamo l'unico, a parte la Francia che fa un caso a sé stante, cioè io sto facendo una cosa normale, naturale, nel rispetto delle norme comunitarie, punto. Soltanto che hanno paura evidentemente di una piccola compagnia. La cosa mi fa piacere da parte, perché hanno paura proprio di un'impresa piccola, impresa ferroviaria, che entra sul mercato e non chiede soldi ai contribuenti. Lo ripeto un sacco di volte. Forse il mio problema è che non ho chiesto soldi a nessuno. Ecco. Grazie. Grazie Giuseppe Arena, fondatore di Arena Ways. Questo è il suo racconto di questa vicenda, che non si è ancora conclusa, perché ci sarà un esito di questo ricorso il 6 ottobre. Sarà interessante vedere come andrà a finire. Ancora qualche ascoltatore nell'ultimo spicchio di trasmissione. Marcello da Sondrio, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Chiamo proprio da Sondrio, visto che sentivo che Mastella ci tirava in causa. Ma premettendo che è un po' ridicolo sentire, dal mio punto di vista, parlare un dinosauro della Prima Repubblica, che era l'antitesi del risparmio, come Mastella, parlare di rigore dei conti. Se loro vogliono tagliarci fuori dal mondo, noi stiamo maturando l'idea di passare alla Svizzera. Poi vediamo se bastano gli introiti di Benevento e del Sud in generale per l'Italia. Questo è quello che ha detto il presidente lì della provincia, no? Sì, esatto, Sertori. Ha detto che se ci vogliono, già siamo un territorio di frontiera, se ci vogliono tagliare fuori del tutto, noi possiamo, grazie alla legge sull'autodeterminazione dei popoli, possiamo fare il referendum e passare come i palestinesi, come si chiamano gli abitanti di Sondrio? Sondriesi. I sondriesi, come non so, quelli del Tibet. Senta, ma ecco, voi vi sentite un po' graziati, perché la prima versione della questione province Sondrio era da abolire. Nella seconda versione, compreso il criterio della superficie, Sondrio resta in vita ed è una delle poche, ed è quella di Tremonti. Vi sentite graziati? Ma non è che ci sentiamo graziati da Tremonti. Il fatto che sia Tremonti sia sondriese, secondo me, non è correlata la cosa. Il fatto che Sondrio è una valle abbastanza tagliata già fuori dal mondo, già tagliata fuori dall'Italia. Se la si esclude anche come provincia, in pratica noi diventiamo un vero e proprio territorio di frontiera. E quindi, infatti, ma perché non potreste stare in un'altra provincia? Che ne so io che c'è lì a fianco, essere ricompresi in un'altra provincia. Non è che venite aboliti come... Ma noi allora a questo punto ci conviene passare con la Svizzera. Ma la Svizzera vi vorrà? Avete fatto un sondaggio? Altro che, la Svizzera ci vorrebbe sì, come. Avete già fatto il sondaggio? Abbiamo fatto il sondaggio così... Così su due piedi? Sì, ma io penso che tutto sommato all'Italia non conviene che noi ce ne andiamo con la Svizzera, a meno che non gli bastano gli... Ma nessuno vuole andarvi con la Svizzera, è semplicemente una questione di abolire la provincia. Cioè, siete italiani, vogliamo che siate italiani. Capito, però dal mio punto di vista forse bisognerebbe avere un occhio di riguardo per le province più produttive, che sono poi quelle del nord, e puntare magari... Ma questo è un altro discorso, non c'entra nulla con la Svizzera e col confine. È una questione che lei dice, siete una provincia produttiva e quindi bisogna avere riguardo per la provincia produttiva. Però qua è stato usato un altro... Siamo una provincia un po' particolare, perché Sondrio comunque è un territorio molto esteso con una popolazione ridotta. Per noi tagliarci come provincia vuol dire... comunque metterci in una seria difficoltà. E poi ma lei è d'accordo con quello che ha detto Speroni qualche sera fa, l'europarlamentare della Lega, che bisogna abolire non le province ma le questure e le prefetture? Ma sicuramente abolire bisogna abolire, la crisi economica ha avuto... Purché non si abolisca la provincia di Sondrio. Grazie purché Marcello. Esatto. Salve, grazie. Viva la provincia di Sondrio. Bruno da Verona, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, piccolissima premessa, io sono uno di quei contribuenti che dovrebbe contribuire appunto al risanamento, le famose 500-600 mila contribuenti, benissimo. Ciò premesso, io dico onore a Giulio Tremonti, perché io ho seguito un po' tutta la trasmissione e lei ne avrà avuto anche lei prova ampia. L'ultimo telespettatore, quello radioascoltatore, quello di Sondrio, è classico. Si faccia tutto purché non nel mio orto, le tasse le paghino tutti purché le paghi non quelle che pago io. Sì, esattamente. Vergognoso l'intervento di Mastella, su questo concordo, con dei ragionamenti veramente con tutto l'onore un po' al limite dei bizantini, ma veramente vergognoso. Crosetto, se poi non sa di economia, dovrebbe avere almeno il pudore, ma non tiene vergogna di fare le sue osservazioni, perché è un uomo libero e poi è anche, fa parte del governo, ma dovrebbe farla con un po' di umiltà, non sparando a destra, a manca delle cose. Onestamente anch'io dell'intervento del mio Crosetto ho capito pochissimo. Capisco solo che ha una fame enorme di visibilità, come purtroppo ancora manifesta di avere una fame enorme di visibilità l'onorevole Prodi, che sibila le sue argomentazioni in modo un po' invidioso. Grazie Bruno, grazie, dobbiamo fermarci qua. E tra l'altro c'è una rettifica da parte di quell'ascoltatore che ci aveva scritto a proposito di Giuseppe Arena e del suo presunto allontanamento dalle ferrovie. Dice: scusate, mi avevano avvertito male a proposito di Arena, che si è licenziato liberamente dalle ferrovie nel 1993. 20 e 33 minuti è tutto per questa serata, noi ci risentiamo domani con La Zanzara, intanto una buona serata a tutti.